Grey's Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Io non ti voglio più vedere sul muro, davanti ad un bucato, dove qualcuno ci ha disegnato pornografia. Il nostro viaggio riparte da un impegno, da una promessa. Vi porteremo all'interno di uno degli aspetti più complessi e contorti del poliedrico mondo della voce. Il lavoro, perché con la nostra voce possiamo intrecciare relazioni, diventare dei leader, nascondere dei problemi. Ma nonostante il nostro impegno, non riusciremo mai a nascondere la nostra vera anima. Buon lavoro a tutti. Sul muro, davanti ad un bucato, dove qualcuno ci ha disegnato pornografia, buon mercato. Buon pomeriggio a tutti, signore e signori, e bentornati su Voice Anatomy. Leggo già un primo messaggio di benvenuto e mi piace molto leggere questo SMS. Aspetto con impazienza l'inizio della trasmissione. Ecco, la trasmissione è cominciata, come ogni domenica puntuale su Radio 24 dagli studi di Roma. Siamo qui, sono qui per adesso io da solo, Pino Insegno, in compagnia di tutto lo staff organizzativo, produttivo e registico della trasmissione. Vi ricordo i nostri numeri per partecipare alla trasmissione: il numero verde è 824 00 24 per partecipare in diretta alla nostra trasmissione, il numero degli SMS 349 238 6666. E poi c'è il grande successo, questa voice box, questa segreteria telefonica di Radio 24, abbinata ovviamente alla nostra trasmissione, dove ogni domenica noi scegliamo, durante la settimana per essere più precisi, quelli che si sono distinti o contraddistinti di più nel loro messaggio vocale, quelli che ci hanno raccontato magari un piccolo momento di un film o di uno spettacolo o di una poesia, e noi abbiamo la possibilità di invitarli qui in studio, che è un momento anche molto emozionante per loro, perché certe volte si tratta proprio dei veri e propri laici di questo mestiere, non sono dei professionisti, ai quali andrà la possibilità sicuramente a fine stagione di poter partecipare magari con un piccolo ruolo in un film molto importante, o comunque di essere messi in evidenza di fronte ai più grandi direttori di doppiaggio che si alterneranno di fronte a questi microfoni. Ecco, allora cominciamo subito con uno di loro, perché è molto emozionato e non vede l'ora di partecipare in voce a questo programma. Sto parlando di Dino Capuano, nativo di Martina Franca in Puglia. Ha un negozio di articoli sportivi, ha passione per il doppiaggio, ha fatto corsi di dizione e presto farà un corso di doppiaggio con l'amico Cristian Iansante, è già l'ospite della prima puntata, Roberto Pedicini. E allora, Dino, ci sei in collegamento? Sì, ci sono, ciao Pino. Eccoti, buon pomeriggio. Dino. Buon pomeriggio. Comincia con più allegria, ricominciamo Dino. Vai, sì. Pronto Dino, ciao, ci sei? Dino. Eccolo! Okay, la voce è importante, sono anche in questo, riesci, certo, a capire, certo, la persona, certo, come sta. Sono un po' emozionato. Ma ci credo, però non spegnerti allora, mai. Ci metto un po' di sprint, ok? Sì. Allora, innanzitutto vorrei precisare una cosa, io non sono nativo di Martina Franca, ma benissimo, sono napoletano, io sono nato a Pozzuoli, provincia di Napoli. Allora sono, c'è qualcuno però, che su Wikipedia, che si voglia, oppure la telefonata, non vi siete capiti, perché da Martina Franca alla Campania, insomma, un po' di spazio c'è. Ok, allora, innanzitutto vorrei precisare che io amo il doppiaggio, per me è un mondo incredibile. Ho imparato ad apprezzarlo attraverso internet, prima da bimbo, da spettatore, vari film a cui mi sono appassionato, anche da bimbo le voci dei cartoni animati, i vari doppiatori che si avvicendavano, no, sui vari personaggi nostri beniamini. Poi più grande posso, che ne so, ricordare Ferruccio Amendola, Glauco Onorato, Tonino Accolla, tra quelli che non ci sono più, che mi hanno formato caratterialmente, se vogliamo, hanno contribuito. anche a me, devo dire, questi sono personaggi che ci hanno accompagnato e mi hanno accompagnato all'inizio della mia carriera, ovviamente, sì, dei punti di riferimento importantissimi, anche perché io non nasco come figlio d'arte, sono un po' figlio d'artri, come amo dire spesso e volentieri, e sono nomi importanti, sì, sono dei grandi attori, che diciamo il doppiatore è e deve essere assolutamente anche un attore, per cui devi conoscere perfettamente la dizione, l'impostazione vocale, certo, e sicuramente come affrontare di fronte a un microfono da fermo, senza muoverti, tutte le azioni di un film. Infatti quando, certo, tu vai al cinema vedi quegli attori che stanno correndo, stanno amando, stanno sparando, stanno, certo, combattendo, ma tu devi pensare che davanti a quel microfono noi siamo fermi, non puoi neanche muoverti troppo perché la giacca o la camicia fa rumore, e allora fai in piccolo tutto quello che succede dall'altra parte dello schermo ed è pazzesco. Un giorno vorrò riprendere i miei colleghi doppiatori dall'altra parte e far vedere in piccolo come mimano l'intero film. Senti, tu il provino che hai fatto sulla nostra voice box, il numero lo ricordo della voice box, che è, se non sbaglio, 824 no, aiutatemi, 828 1212, sono molto simili i numeri, allora per questo io li confondo. E allora tu che cosa hai fatto nella registrazione? Allora, io il monologo finale del film Memento, se mi consenti due paroline, se possibile. Sì, certo. Allora, io ho scelto questo film perché Guy Pearce, il protagonista di questo, sì, film, è doppiato magistralmente da un doppiatore che io ammiro tantissimo, mi piace tantissimo. Ho imparato a conoscerlo su internet, le interviste che ha fatto, ed è Christian Jansante. Inoltre anche... È un pazzo vero, Christian, non vedo l'ora di averlo qui ai microfoni. Magari, un pazzo magari. Lucido, ovviamente, lucida follia. Inoltre è protagonista di un... lui è voce protagonista di una serie che io amo alla follia, che The Walking Dead, è lui, no? Se mi consenti, lo sceriffo. Vorrei salutare un gruppo fan di Facebook, sì, The Walking Dead Italia Fan, di cui io faccio parte, che sono dei folli come me, dei folli che camminano nei boschi aspettando di incontrare qualche folli, non vivente. Nel senso buono, è gente, ecco, che ammira, che diciamo appassionatamente questi zombie maledetti. Io che non moriranno, ma io ti posso fare una confidenza, sai quanto mi piace doppiare e quanto lo faccio. Certo. Quando amo le serie come Walking Dead e altre, mi chiamano, faccio finta di essere impegnato, perché sennò vedo come va a finire e non, me, la, non me la godo più. Io ero un fan sfegatato di 24, e l'amico Massimo Rossi mi chiamava: senti Pino, c'è il protagonista di puntata, e io dicevo: ma guarda Massimo, che giorno, porca miseria, non c'ho teatro, non posso, ma perché mi sarei rovinato tutta l'intera serie, per cui sono anch'io un pazzo, certo, di queste persone. Ma poi, comunque, dimmi. Se posso anche menzionare te, un'altra serie che io ammiro tantissimo, sì, cioè mi piace tanto, l'ho scoperta da poco perché io sono un collezionista di DVD, quindi è uscita da poco in DVD, ed è True Detective, la prima stagione, è uscita proprio l'altro ieri, sì, dove tu hai fatto un lavoro incredibile. Grazie. Ma veramente sì, è stato un lavoro certosino. Ti ringrazio, perché con Rodolfo Bianchi, che avremo ospite prossimamente, grandissimo direttore, siamo stati praticamente 4 mesi su quella serie l'altro anno, insieme all'amico Adriano Giannini, per cercare di ridare quell'anima che i due protagonisti, Woody Harrelson e Matthew McConaughey, che dobbiamo ancora capire come si pronuncia, certo, hanno dato. Ovviamente è pur sempre un doppiaggio, è pur sempre una traduzione, ma certo, l'abbiamo fatta veramente come, insomma, se stessimo intagliando un diamante, proprio attenti. Anche Adriano Giannini. Sì, ha fatto un gran lavoro. Bravissimo. Ma sai, questo, quando ci danno i tempi giusti per poter fare questo mestiere, noi riusciamo a ridarlo. L'ultima cosa, Pino, e poi... Ma tu sei un gratificatore del nostro ambiente, telefonaci, sì, tutte le mattine, magari, e mandaci al lavoro, magari, a proposito del tema, allora, della puntata. Ascolta, io sono un estimatore di un gruppo italiano, anche se ho 43 anni, sì, però questo gruppo ce l'ho nel cuore, sono i Pooh. Sì. Allora, Jansante ha fatto un lavoro incredibile con, sì, i Pooh. Abbiamo fatto un CD con le poesie, cioè con, esatto, le canzoni raccontate a poesia. Allora, vero, ti faccio questa domanda: secondo, sì, te, qual è la canzone che io ho nel cuore maggiormente? Guarda, non lo so, tanta voglia di lei, Pensiero. No, è Pensiero. Pensiero che hai interpretato tu. Posso dirlo? Sì, veramente, in maniera magistrale, sono d'accordo, no, con te. Incredibile, no, scherzo, dai. Incredibile, perché tu... Va bene. Se mi consenti... ti ho consentito tutto, ma devi recitare adesso. Vai, ok. Adesso è stato delizioso e noi ti ringraziamo, perché sai, gli attori sono egocentrici e gli piace, scusami, parlare. No, no, ma è bello. Io una volta dissi, siccome parlavo spessissimo io al Costanzo Show, una signora giustamente ha detto: ma parli sempre tu? Allora tirerai fuori una frase che mi salvò, di Groucho Marx, che vi consiglio, che dice: va bene, basta parlare di me, parlami un po' di te, che ne pensi di me? Capito? Oh, per cui così ti salvi. Vai, che cosa mi reciti in un minuto? Allora, e quindi il dialogo finale del film Memento. Memento, vai. Ma metterete un... Sì, getto tutto, se me lo consenti, come dici tu. Va bene. Vai. Dimmi tu. Vado? Vai, prego. Devo credere in un mondo fuori dalla mia mente. Devo convincermi che le mie azioni hanno ancora un senso, anche se non riesco a ricordarle. Devo convincermi che, quando chiudo gli occhi, il mondo continua ad esserci. Allora, sono convinto o no che il mondo continua ad esserci? C'è ancora? Sì. Tutti abbiamo bisogno di ricordi che ci rammentino chi siamo. Io non sono diverso. Allora, a che punto ero? Si interrompe così. Ehi? Pronto? Ah, beh, era finita, scusami. Era finita. Bene, bene, no, bene. Guarda, ci stavamo guardando qui e dall'altra parte del vetro, dove ci ha raggiunto l'ospite eccezionale, Emanuela Rossi, che fra poco vi presenterò la voce. Io la volevo sexy. Salutare, non è lo so, ma te la bacio io, l'ascolterai per ma la faccio entrare a voi. Entra Emanuela. Non volevamo fare una presentazione così rapida, cioè abbiamo una bellissima presentazione di Emanuela Rossi, però lei è arrivata, ecco il bacio è arrivato, ora mi sta baciando, non a te, ecco di mettiti qua, dove? Manu, dove? Eccola, la voce più bella del mondo, grazie, fra poco, ecco la cuffia, oh, ma soprattutto è una delle poche, non ne vorranno le altre doppiatrici, che assomiglia alla propria voce. Grazie Pino, questo mi fa molto piacere, lo dico sempre. Pino dice di me questa cosa. Vabbè, naturalmente ragazzi, mi lusinga da morire. Ma lo diciamo un po' tutti nell'ambiente. Te do sta notizia. Vox, ma noi... Vox Populi. Senti, allora anche lei ti ha sentito recitare, puoi salutarla, sì, perché ti sta ascoltando. Ciao, Dino. Mi ricordi il tuo nome perché io. Dino. Pino, non è stato Dino. Male, eh? Non è stato no, male. Assolutamente. Per essere un laico. Assolutamente no, ho sentito soprattutto la passione e la spinta emotiva che ha messo nel monologo. Qua, mamma mia, ragazzi. Sei stato bravissimo. Ragazzi, è l'unica trasmissione che va sentita in accappatoio, questa qua. Pronti a tutto. Signora Emanuela, è bellissimo. Diga, Duca. No, non so, posso darti del tu, scusami. Assolutamente, certo. Tesoro. Allora, questa è la mia voce, lo sai? Vorrei farti i miei complimenti. Grazie. Per due interpretazioni che ho particolarmente nel cuore. Vai, sbrigati. La prima è Isabella Rossellini nella Morte ti fa bella. Ah, è bello. E la seconda è Sean Young in Blade Runner, che bello. Io ho amato alla follia. A chi lo dici? Amico mio, ti saluto, sei stato veramente bravo. Dobbiamo dare la voce alla pubblicità e soprattutto dare voce dopo a Emanuela Rossi. Restate con noi perché Voice Anatomy è appena cominciata. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta... Voice Anatomy. Signore e signori, bentornati, Voice Anatomy, sempre in diretta da Radio 24. Abbiamo cominciato ascoltando uno dei tanti che si è proposto all'interno della nostra Voice Box e avete sentito, che è rimasto con noi in ascolto, l'introduzione vocale della nostra ospite, la nostra prima straordinaria ospite, ma io voglio ricominciare come se lei non l'aveste sentita. E allora, lei è nata a Roma, basta, non si dice né quando, né dove, né perché è nata, basta, l'importante è che sia nata. È una grandissima attrice, una grande doppiatrice, una grande direttrice di doppiaggio. È la sorella, e voglio dirlo con grande orgoglio, di due straordinari doppiatori e attori che sono Massimo e Riccardo Rossi. Non Riccardo Rossi il comico, ma Riccardo Rossi la voce. Ed è anche cugina di un'altra coppia di grandissimi attori doppiatori che sono Fabio Boccanera e Laura Boccanera, nonché anche compagna d'avventura e di vita dell'amico Francesco Pannofino, che avremo sicuramente ospite presto qui in studio. E c'è un bellissimo ragazzo ormai che si chiama Andrea, questo è un po' l'avvio, ma ascoltiamo tre momenti bellissimi della sua vita artistica, tratti da Scarface, dove lei era Michelle Pfeiffer, Quel che resta del giorno, Emma Thompson e Forrest Gump, Robin Wright Penn, quando era ancora sposata con Sean Penn. Prego. Ti piacciono i bambini? Che cosa? I figli, come li chiami, i bambini? Certo, perché no? Se c'è la bambinaia. Bene, piacciono anche a me. Mr. Stevens, sono molto addolorata. Vostro padre ci ha lasciato pochi minuti fa. Ah, capisco. Sono davvero molto addolorata. Sì. Io vorrei riuscire a trovare le parole. Sì. Vuoi sposarmi? Sarei un buon marito, Jenny. Ne sono sicura, Forrest. Non mi sposerai, però. È meglio che tu non mi sposi. Perché non mi ami, Jenny? Non sono un uomo intelligente, ma so l'amore che significa. Dio, che bello. Bello! Signori, Emanuela Rossi, l'applauso sentito nella testa che sta arrivando. Grazie. Ma abbiamo, per scegliere cose che hai fatto, Emanuela mia, che poi Scarface è dell'83, se non sbaglio. Yes. Cioè, tu ma già potreste. Cominciare. Capirai, te e tuo fratello su un pianoforte con gli Aristogatti. Sì. Senti, tu hai cominciato da bambina, appunto, sì, no? Sì. Da bambina. Quanti anni avevi? Avevo 8 anni. 8 anni, per cui 12 anni fa, più o meno. 13 sì. anni fa. No, 15. 15. Cerchiamo di essere un po' più realisti. Sì. Hai cominciato con un film particolare? È stato per grazia ricevuta, se non sbaglio? No, ho iniziato prima con dei cartoni animati, poi feci un film bellissimo che si chiamava Le visite del presidente, che mi ha battezzato come voce maschile. Ma nel senso che io spesso da bambina, siccome avevo una voce un po' particolare, un po' rauca, così, poi mi sono rifatta da grande perché, beh, come sai, insomma, tantissime dato belle donne. E poi feci questo, il provino per grazia ricevuta con Nino Manfredi, e vinsi il provino con 12 bambini che facevano il provino, tutti maschi. Perché tu, e alla fine ho vinto io. Cioè, la donna più donna che io conosco, di una bellezza assoluta. Grazie, hai cominciato doppiando i maschietti. Ho cominciato così. Mi hanno odiato. E mi ricordo quando Nino Manfredi diede il risponso del provino, c'erano questi 12 bambini perché ci hanno fatto aspettare e mi hanno odiato. E lì è cominciato il mio rapporto un po' difficile con l'altro sesso, con l'altro, che è poi arrivato al suo climax al clima proprio con niente. Francesco Pannofino. Mi sono scelta proprio quello che dice, certo, vabbè. Fra tutte e due, se vi chiamano la mattina state proprio buongiorno, chi è? Chi è? Sono io. Spegni io la televisione. Davvero, disse una cosa bellissima Claudio Amendola, sì, in un Costanzo Show, dice: ragazzi, io non lo so, a me quando mi stillava mio padre io non riuscivo a essere rimane serio, perché mi sembrava che mi strillava Al Pacino, che mi piava Stallone e mi gonfiava de botte. Non sono mai riuscito a capire che se era mio padre oppure è una vero di queste. Te prende questa situazione? È vero, come no. Non stacchi assolutamente. Che poi è uno dei personaggi belli con cui hai cominciato, sia te che tuo fratello, mi pare, gli Aristogatti. Sì, Riccardo in Riccardo particolar modo, non sapeva neanche leggere quando abbiamo fatto tuttora, gli Aristogatti. Tuttora, Riccardo, non sa neanche che se ci sta sentendo ci ammazza. Te l'ho detto di sentire. Sì. Ed è cominciato gli Aristogatti, i micetti eravate. Sì, io facevo Bisè come al solito, pure quello maschio. Io facevo tutti i maschi. Poteva veramente crearmi dei problemi sulla mia identità. Esatto. Meno male no. No. Meno male no. No. Diciamolo a tutti. Io quanti posso dire, abbiamo fatto adesso una foto per i social con il nostro amico autore, uno degli autori, Damiano. Sono venuta bene. Andata contro la mia amica mia. Non ho detto gli anni. Dovrei dirgli gli anni per darti ancora più soddisfazione. Sì, è vero, io ogni tanto li dico. No, ma devi dire 65. Non è vero. Dai, non 65, siamo sotto, non abbiamo più 50 anni, possiamo solo di questo. Però assolutamente no. La sua carriera è straordinaria, vi dico qualche voce, sì, la voce ufficiale di Michelle Pfeiffer, ovviamente di Robert Wright, adesso non più Penn perché si è divorziata con Sean Penn, Christine Scott Thomas, Angela Bassett, Emma Thompson, li devo leggere che sono tanti, René Russo, yeah, Debra Wing, Sissy Spacek, Rebecca De Mornay e soprattutto anche Pippi Calze, ci abbiamo Pippi Calze Lunghe, sì, almeno per poi quelli mi piace che anche dire ultimamente, sì, che l'ho fatta un po' mia, Kate Blanchett. Beh, che Blanchett o Blanchett? O Blanchett? Lo sai che know. Qualcuno. Telefonate. Kate. Telefonate a Radio 24 e diteci la pronuncia di Kate Blanchett o Blanchett o Blanchett. Non lo so, 800. Lei è australiana, penso. Io non so, io so De Monteverde Vecchio, oh, qui a Roma. Insomma, io la chiamo Kate. Kate. Kate. Kate Blanchett è straordinaria. Pippi Calzelunghe ce l'abbiamo per poterla ascoltare prima di andare in blocco. Allora, ascoltiamoci una bellissima Emanuela Rossin, Pippi Calzelunghe. Mai stata una festa in vita mia. Farò certo qualcosa che non va. E chissà cosa penserà vostra madre. Ti diremo noi come dovrai comportarti. D'accordo, se mi aiutate voi cercherò di farvi fare una bella figura. Anche se sarà molto difficile. Non credo che riuscirete a farmi passare per una grandama. Andrà tutto bene, vedrai. Se lo dite voi, io sono capace solo di collezionare brutte figure. Anche se non lo faccio apposta. Che nome fa un po' ridere. Sai che la canzone la cantava Isa Di Marzio. Non mi fecero cantare la canzone, sono rimasta sempre questa cosa. Ah, non eri tu? Beh, succede ogni tanto, però potevi cantarla. Sì, la potevi. Sì, sì, sì. Non so, per, non mi ricordo adesso per quale oscuro motivo, però la cantava Isa Di Marzio, che era la mitica voce di Orazio Pennacchioni alla radio. Noi che siamo, che abbiamo una certa. Vabbè, devo dire, insomma, Radio 24 è ascoltata anche da persone che hanno l'età tranquilla per ricordarsi questo. Non voglio dare idea che sono anche dei giovani che ascoltano questa radio, assolutamente. Però c'è una generazione, quella attaccata un po' in bianco e nero, che poi è la generazione che io amo. Sarà che sto facendo i discorsi che faceva mio nonno, che faceva mio padre, e adesso li sto facendo io. Si stava meglio quando si stava peggio, andavamo a letto dopo Carosello, tutto era molto più vero. Io quando vedo te in televisione mi prende una tristezza nell'anima, una tristezza gioiosa, perché sì, per una malinconia gioiosa. Ma sì, è come vedere in sala e non vedere più in sala di doppiaggio gli Amendola, i Cesare Barbetti. Ieri sera trasmettevano un film che era una serie di Bond, tra le altre cose un film che avevo doppiato io, che era Solo per i tuoi occhi, con Roger Moore. Andiamo bene, andiamo bene. Rifacciamola. C'è la messa che fa doppiatrice con Roger Moore, che è uno pure Roger Moore, è romanaccio. Perché mi voglio sbrigare a parlare. Solo per i tuoi occhi era il titolo. Solo per l'occhi tuo. Per l'occhi tuo. Oddio, andiamo in tutta Italia, ma capiranno. Insomma, Pino, lì c'era proprio un festival di voci meravigliose, da Pino Locchi, Glauco Onorato, Alessandro Sperlì, chi altro c'era? Renato Mori. Sì, mi è presa una bozza terribile. Adesso Anna Miserocchi, andatele a controllare queste voci. Noi abbiamo un grande biografo che si chiama Antonio Genna, è un sito che racconta tutto. Senti, stiamo per andare in pubblicità. Puoi dire, per favore, restate con noi a Radio 24, con Voice Anatomy, torniamo tra poco. Senti, ma come, che intonazione vuoi? Come la devo fare? Bella, come te pare. Tornate, no, aspetta, com'è? Andiamo bene. Vi aspettiamo a Radio 24, a Voice Anatomy, tra poco. Vi aspettiamo a Radio... Va bene, adesso chiamiamo professore edizione, non è Emanuela Rossi, è veramente, dopo che ha fatto Blade Runner, lei praticamente è un'altra, è l'invasione degli ultracorpi. Mamma c'è mia, il suo. Che figuraccia. E poi in diretta nazionale e internazionale. Ci vediamo, forse no, ma è meglio che ci sentiamo tra poco. Adesso chiamate un buon dottore se c'è in sala, e poi Sanatomi è appena cominciata. Mamma mia, ma come mai? La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia. Ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Da lunedì a venerdì alle 17. Solo su Radio 24. Voice Anatomy. Do mi sol do da sol mi do. Sei buon musicista, tu puoi diventar. Tante scale, tanti arpeggi devi far. Prendi il fiato ed ogni nota limpida sarà. Se dal petto e non dal naso ti uscirà. Non sei mai stato a un ballo studentesco? Vorrei tanto che non mi fissassi con quegli occhi. Quali occhi? I tuoi sono troppo intensi. Tu non guardi, esamini e mi rendi nervosa. Addio, che mamma bello. Da piangere. Abbiamo cominciato con gli Aristogatti ed era intonatissimo, perché prendere quelle note non era facile. Quanti anni avevi lì? 10. 10 anni. E poi dopo un film che io e la mia grande signora amiamo particolarmente, che è Paura d'amare, Frankie e Johnny, che poi ci vedrà protagonisti a teatro proprio da mercoledì prossimo qui a Roma, al Teatro Tirso, per 3 settimane. Non è pubblicità, ma proprio lei, ho visto che lacrimava dall'altra parte, perché io la prima volta, per convincerla ad amarmi in qualche modo, ho fatto chiamare Emanuela Rossi, senza dirgli niente, ad Alessia. Gli ho detto, c'è la frase finale che è bellissima, che ti amo per sempre e comunque e malgrado tutto. E malgrado tutto. per cui l'ho fatta che dire. Sì, è la frase più bella del mondo, che una coppia che si rincorre. Beh, è la chiave dell'amore eterno, no? Sì, ti amo per sempre, malgrado tutto, perché poi non è vero che nell'amore è sempre tutto rose e fiori. No, no, ma soprattutto nell'abitudine quotidiana, se tu pensi che all'inizio magari, ecco, il doppiatore, no, l'attore, ha bella voce, gli parlavo a mia moglie, dice, ah, che bella voce, adesso mi dice solo, e basta, capito? Questo diventa poi un rapporto di coppia, però ci amiamo per sempre, speriamo, malgrado tutto, come la tua coppia. Tu, proprio per sottintendere, anche sottolineare il tema della puntata, che è il lavoro, c'è quello in mezzo, cioè tu sei madre, moglie, lavori e anche abbastanza. Come concili tutto questo? Riesci? Con grande difficoltà, Pino, perché poi, insomma, noi donne, gli uomini sono molto più liberi e spensierati, diciamo, ecco, così, no? Da un certo punto di vista, poi non tutti sono uguali. Io sono conduttore adesso, non uomo. Tu sei conduttore, va bene. E noi donne, naturalmente, forse dico anche delle banalità, ma a volte la banalità corrisponde alla verità, dobbiamo conciliare appunto questi doppi, triplici ruoli. E io, insomma, con grande fatica, ma penso di essere riuscita, almeno fino a questo punto, di portare avanti tutti questi ruoli in maniera degna, ecco, sì, sì, diciamo così. Conosco poi la dovreste, famiglia. Ecco, sì, dovremmo chiedere a tuo figlio, lo so, a mio figlio, no, mio marito, Francesco, glielo chiederemo quando verrà ospite, ma mai passeremo tutto questo. Sì. Per cui tutto questo è molto. Arrivano degli sms al nostro 349-238-6666. Che cosa pensate delle lettrici di pubblicità che trasformano le C e le G dolci in altrettante Z? Burro di Brazzale. Da 200 anni nel mio intimo Zé Zilli, io le trovo di un'affettazione insopportabile e odio i prodotti così propagandati. Propagandati, stiamo attaccata. E questo dice Sofì. No, non lo so, non ci riguarda questa. No, non lo so, io non ho mai sentito queste cose. Magari. Sì, nella vita spesso le amichette di mio figlio dicono: pronto, signora, grazie, andrà. Sì, a borsetta. Sì, a borsetta, così. Però, insomma, non. Però non mi risulta, anzi, di pubblicità. Può capitare, magari detta magari in un'altra regione, no, che non spesso è quella del Lazio, succede che poi qualcuno riesce a dire qualcosa in un altro modo. Io invece sento spesso, qualche volta, le pubblicità così, con un accento soprattutto nordico. Ah sì, senti, come ci stanno quelle del profumo che io non sopporto moltissimo, perché si capisce niente. Sì. Tu vedi questi uomini bellissimi, sì, e tu pensi, te metti quel profumo, diventi così, non è vero. E alla fine senti quello e fa, ma di che? Non lo so! È vero! Questo pure parlando di voce, cioè io non riesco a capire dove li prendono. Tutti francesi, ma tutti che te sputano nel microfono. J'adore. Sì, j'adore. J'adore. Sì, j'adore. Ci ha fatto caso? Sì, tu non vero. Te ne ricordi uno? Vedi solo un pezzo di gnocco che esce dall'acqua, sì. Un altro pezzo di gnocca che esce dall'acqua. Se guardano, fanno quello che devono fare. Sì. Se tirano l'acqua, non fanno altro. Se tirano le frecce, diventano d'oro d'argento. E alla fine, vabbè, buon per lui, che te lo dico, ha digerito. Abbiamo anche una telefonata, ci sono tante cose da dire. Vediamo un attimo sulla 6, mi dicono. C'è Francesco da Caserta, eccoti qua, Francesco. Buongiorno. Buongiorno, buonasera, Francesco. Anzi. È uguale. Volevo chiederti una cosa, Pino. Sì. Come mai nei film, a teatro, nelle pubblicità, quando sento gli attori parlare, avere delle conversazioni oppure effettuare dei monologhi, a me mi sembrano sempre molto molto costruiti, ci mettono forse troppa enfasi per essere un film, cioè dovrebbero essere, noi penso, noi persone normali parliamo in modo più naturale tra di noi. Sapete come mai si tende ad enfatizzare troppo i discorsi e poi sono troppo precisi, secondo me, senza errori di... Vogliamo i nomi. I nomi dei film, tutti i film, penso tutti i film, io quando vedo un film sono sempre molto, anche se mi piacciono tutti i tipi di film, sono sempre molto critico, perché penso che alcune scene, alcune cose potrebbero essere fatte in modo molto più naturale, cioè aiutaci a capire, nel senso, noi cerchiamo sempre di renderli naturali come lo fanno loro, perché non è se quello parla sporco come poteva essere Sozzo in Un uomo da marciapiede, Amendola l'ha fatto, buonasera signor, l'ha fatto sporco, come Stallone di Proietti in Rocky 1 sembra quasi un po' romano come sporcature, eccetera. Non lo so, cioè, può succedere un film doppiato male, assolutamente, come una traduzione. No, forse invece penso che sono doppiati forse troppo bene. bene, perché sono, cioè, per me personalmente li sento come troppo precisi, si capisce che sta recitando la persona. Perché non, quando un regista vuol fare essere troppo preciso, troppo perfetto il proprio attore, anziché renderlo naturale, nel modo più naturale ma possibile? Ma questo è il doppiaggio, perché... dici, oppure dici la recitazione? Il doppiato, essere il film sia doppiato, sia il film in italiano normale, che comunque per me, io penso che... Io i film li sento così, sono molto critico, nel senso che c'è poco, vedo poca naturalezza, li vedo troppo perfetti, diciamo. Questo qua volevo chiedere. Ma intanto ti riferisci a qualche film particolare o tutti in assoluto? No, sì, per me tutti. Tutti, niente. Non ne salva uno. Aspetta un attimo, ma no. Che lettore c'hai a casa? No, per capire anche... Che lettore? Il lettore DVD o Blu-ray, no, che magari... Li vedo per televisione i film, non li vedo per DVD. Vabbè, insomma, non ti piace come recitano gli attori? Ma gli attori italiani non ti piacciono? O il doppia, tutto, cioè, te no, non ti piace, niente. Spegni la televisione, guarda un originale, non no, lo so. Ve l'ho detto, a me, io sono un amante, però li vedo, sono molto critico quando guardo un film, anche nella sceneggiatura, perché alcune cose sono molto molto attendibili. Però per esempio la parte dei film a teatro, soprattutto, no, a teatro perché si deve recitare per una, se si sta parlando, se delle persone in dialogo si svolge per strada, perché le persone parlano in modo con molta enfasi quando voi per strada non c'è una convenzione teatrale. Perché se io parlassi con Pino come sto parlando in questo momento, probabilmente a teatro le persone dell'ultima fila, ma pure quelle da seconda, anche da seconda, non sentirebbero niente. Per cui c'è una convenzione teatrale, poi dipende da testo a testo. Logico che se tu reciti uno Shakespeare non puoi recitarlo come se facessi Tennessee Williams, per dirti, capito? C'è proprio, sì, ci sono queste convenzioni, ovviamente quelle sono un po' più retoriche perché serve la retorica, ma devi sapere che il percorso anche del doppiaggio insieme a quello del cinema hanno camminato paralleli. C'è stato a un certo punto, fino agli anni 60 o 50-60, tu sentivi anche una prostituta che recitava in un americano perfetto e doppiata con un italiano perfetto. Poi piano piano è cominciato l'antieroe hollywoodiano, proprio con Dustin Hoffman, gli Al Pacino, i Robert De Niro, i non belli che sporcavano la loro recitazione, e anche qui si è sporcato tantissimo. Se tu pensi a un grande Flavio Bucci su Grease, La febbre del sabato sera, sì. Se ripetiamo sui Robert De Niro di Toro Scatenato, ovviamente un grande Amendola in tutto. Se pensi, come ho detto prima, a un Proietti di Rocky 1, perché Rocky 1 era Gigi Proietti, quelle Adriana, resta in città, Birillo, Birillo, era al limite, ed era Adriana, ti amo, eccetera, eccetera. Bravo. E poi il 2, il 3, il 4 fu il grande Ferruccio Amendola. E così anche l'avventura di Emanuela è stata così, da un doppiaggio rigoroso, quadrato, come erano i film di una volta, a un doppiaggio più buttato, più, certo, naturale. Va bene, accettiamo di buon grado quello che ci hai raccontato, amico mio, perché è giusto ascoltare tutti e tutte le vostre insicurezze rispetto alla nostra voce. Andiamo avanti con la nostra amica Manuela. L'essere un'attrice a tutto tondo, mia cara Manuela, ha completato e dato maggior spessore al tuo lavoro di doppiatrice? Certo, assolutamente sì, mi ha arricchito, anche perché chi vede il doppiaggio come un... come la professione dell'attrice, però una professione di serie C, io non sono d'accordo. Adesso dice, vabbè, tu tiri l'acqua al tuo mulino. Io credo che sia, come posso dire, un lavoro di... non mi viene la parola, aiutami Pino, ma insomma è una formazione completa, diciamo. Beh, il doppiaggio va a completare anche il lavoro dell'attore, il lavoro e dell'attore viceversa. Va a completare il lavoro del doppiaggio, sì, lo dico sempre. Infatti mio figlio, che vuole intraprendere questa carriera, adesso ha 17 anni e mezzo e ha già iniziato, ha lavorato nelle fiction eccetera, poi ho detto devi venire al doppiaggio, perché il doppiaggio è una grande scuola di formazione per un attore, intanto perché ti dà l'aiuto ad un rapporto proprio immediato con la battuta, poi perché impari a parlare veramente l'italiano, perché lì dove bisogna poi recitare anche in italiano ti forma da questo punto di vista, e poi quando hai la fortuna, come ho avuto io, come hai avuto anche tu Pino, di recitare, di doppiare degli attori importanti, è una grandissima scuola. Cioè sì, io affrontando dei personaggi in teatro mi sono rifatta tante volte a tanti film che ho doppiato, a Michelle Pfeiffer eccetera, per cui ti arricchisce, certo, assolutamente. Perché certe volte magari su di noi riesce più difficile fare certe intenzioni, certe espressioni, poi fortunatamente qualcuno ce le suggerisce. Ma certo, quella è una grandissima palestra. Poi, quando ancora hai la fortuna di lavorare anche con dei grandi registi italiani, come ho avuto anch'io, Monicelli, con Scola, eccetera, ecco lì che il doppiaggio diventa qualcosa di più, ancora più creativo. Assolutamente, come tu hai diretto poi con grande difficoltà, ma no, perché era difficile il film, sì, con Tornatore, sei, sì, stata sul pezzo tantissimo su Bagaria e gli altri film, sì, che sta, sì, facendo. Lì poi il vero direttore è lui, perché... Sì, però siete un binomio vincente. Sì, sì, dentro, insomma, lavorate... sono il suo aiuto, il suo, diciamo così, braccio destro. Assolutamente. Continuano gli sms... apprezzo lo spirito di corpo con cui non criticate le leziose colleghe. Io continuo ad odiare le signorine Z e evitare i prodotti a loro affidati. Sempre Sofì. Un'altra persona, Gigi, da Piacenza, credo, perché PC credo sia Piacenza, non dal computer, almeno spero. Quella delle Alpi di Brazzale irrita anche me. Io continuo a non capire che pubblicità. Me la scrivete ancora negli sms o chiamate per favore all'800 24 00 24. Sofì, Gigi da Piacenza e anche altri su queste Z, ci chiamate un attimo, sì, ci spiegate bene dove avete sentito questa cosa e possiamo provare insieme a interpretarle meglio. Magari sono delle pubblicità. Sì, un'altra regionali. Persona dice cosa che apprezza tantissimo tutto questo, ma perché certe volte non conosciamo il viso dei doppiatori? Meglio di certe volte è meglio di no. Voi conoscete me, Emanuela, i nostri colleghi anche sono colleghi. Vai, ma è meglio rimanere nell'anonimato da quel punto di vista. Sì, certo, anche perché poi potrebbe succedere che quando vai al cinema e conosci la voce, fai una sorta di... È la difficoltà che ho avuto io all'inizio, che dicevano, oddio, sento questo e te vedo la faccia tua, non ci credo più. Ho dovuto superarla questa cosa tantissimo. All'inizio ho fatto pure sotto falso nome un paio di film. Ma a parte questo, sono tante queste cose sulle Z, burro di Brazzale, ancora, da 200 anni. Mi fate uno squillo, per favore. So, comincio a palazzorro pure io, comincio a dire così queste cose. Non riesco. C'è una telefonata? Ah, lo stanno chiamando. Ah, grazie. Noi c'è questa, visto che siamo in diretta dall'altra parte del vetro, c'è questa osmosi straordinaria. Bene, c'è un film in particolare al doppiaggio che è stato proprio difficile. Io credo tutti, però c'è un film che ti ha creato. Intanto io, Pino, ho doppiato una sordomuta. Ah, e quella è la domanda che avrei fatto proprio nel film di Lattuada, Le farò da padre. Tu, sì, hai doppiato, vabbè, apriamolo questa abbiamo 30 secondi. Quando mi dicono, secondi. Ma tu chi hai doppiato? Io ho doppiato maschi, bambini, coccodrilletti, una sordomuta. E com'è stato il lavoro su? Non lo so, a parte è stato molto interessante perché a quel punto io dovevo interpretare, dare delle emozioni e dire delle battute. Aveva dei suoni che parlano certo, in un certo modo. No, non parlava neanche, lei attraverso dei suoni doveva esprimere degli stati. C'è complicato. Sì, nelle condizioni come stiamo io e te oggi sarebbe perfetto. Io devo ritornare a tutti. Signori, vi saluto per pochissimo perché ricordate, lo sapete, Voice Anatomy su Radio 24 è appena cominciata. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta. Voice Anatomy. Ed eccoci puntuale a Voice Anatomy, al mio fianco c'è la straordinaria Emanuela Rossi, stiamo facendo questa bella passeggiata insieme nel mondo del doppiaggio, come sempre della recitazione, ma soprattutto nel mondo del lavoro, che è il tema poi di oggi che ci sta accompagnando. Ma come chiediamo sempre ai nostri amici professionisti, visto che ascoltiamo anche voi che non fate questo mestiere, potete partecipare al nostro concorso a Voice Box, e chiediamo sempre una piccola lettura, magari di un minuto, e Emanuela è stata carina a leggerci questo piccolo frammento tratto dal Profumo. Dal Misantropo. Dal Misantropo. Selimene, che è una grande lezione di vita. Benissimo. Vuoi la musica? Un po' di musica? Ce la mettiamo? Dammi un po' di musica, tesoro. Il Misantropo. Signora, io ve ne sono profondamente grata. L'ho presa così bene che mi sento obbligata, anzi, a restituirvi su due piedi il favore, con un consiglio appunto che tocca il vostro onore. E siccome vi siete dimostrata un'amica, spiegandomi che cosa di me la gente dica, voglio seguirlo anch'io l'ottimo esempio e a gara avvisarvi di quello che dicono di voi, cara. Da gente a cui facevo visita giorni fa ho trovato persone di rara qualità che, parlando degli obblighi delle brave persone, hanno su voi, signora, messo la discussione. La vostra castimonia, quegli eccessi di zelo, non furono, a dir vero, citati per modello, e quell'affettazione d'un sussiego esteriore, le vostre eterne prediche di saggezza e d'onore, le smanceria, le grida agli indizi più labili, di sconcezze in parole caste ma equivocabili, questa spropositata stima che vi assegnate, la pietà che spandete su tutti con occhiate, le lezioni continue, le acide censure su cose che al contrario sono innocenti eppure, tutto ciò vi posso parlare a cuor dischiuso, cara. Lo deploravano tutti, nessuno escluso. A che pro si chiedevano quel contegno modesto e sentenzioso quando non corrisponde al resto? Pregare? Prega in modo scrupoloso ed esatto, ma bastoni i domestici e non li paga affatto. In tutti i luoghi sacri sfoggia un gran zelo, ma poi si trucca e pretende d'esser una beltà. Fa coprire nei quadri le nudità dipinte, viceversa in natura ama le cose spinte. Io per me vi ho difesa, cara, con tutti i mezzi, sostenendo che quelli erano pettegolezzi, ma tutti quanti m'hanno dato addosso, signora, concludendo in sostanza che sarebbe anche l'ora che v'occupaste meno degli altri e casomai vi deste un po' più pena, cara, dei vostri guai. Emanuele Rossi, non hai preso neanche una futta. Niente, visto quando leggo. Quando leggi, no, vabbè, ma è straordinario. Sai, no, che bello. Gigi Proietti ha fatto un film, non so se era un film di Enrico Vanzina, dove interpretava il ruolo di un doppiatore che non ha memoria, perché siccome i doppiatori leggono sempre, esatto, poi dopo non hanno mai memoria, e scherzava molto su questa cosa. E come ha fatto il pubblicista, cioè il pubblicitario, cioè il whisky maschio senza raschio, eccetera, sbagliava sempre su febbre da cavallo. Ah, è proprio, sì, questa poi la puntata di oggi. Altri sms: io credo che i doppiatori siano gli attori migliori e quelli italiani sono il massimo. Vabbè, questo è un pensiero che noi apprezziamo. Ovviamente sono d'accordo con Francesca. Complimenti ad Emanuela, voce stupenda ed emozionante, concordo con lei. Per me i doppiatori sono attori di serie A, ricchi e completi. Anche Daniela: grazie Emanuela per questi sospiri. Questo è un uomo. Perché è così difficile chiedere e avere il permesso ad assistere ai turni di doppiaggio per i neodoppiatori? Vorrei assistere a Roma. Si può? Certo. Sì, Maurizio, nel senso che certe volte è un po' complesso solo perché c'è molta concentrazione all'interno di una sala, non c'è tante volte lo spazio per accogliere degli ospiti, ma se uno rompe le scatole in maniera giusta ed educata si riesce anche ad avere questo, ma c'è la possibilità, abbiamo fatto tutti più o meno così, e si può fare, Maurizio, dipende da te, da quanta voglia hai. Com'è invece doppiare i cartoni come American Dad e Griffin? Ehi, hey Steve! Quelli, è divertente, è ti più sento faticoso. Sempre, Pino. È pure più faticoso perché non hai le facce che puoi seguire. Mentre quando doppiamo gli attori e le attrici, eccetera, hai comunque un corpo da seguire, delle labiali, eccetera. I cartoni devi dargli anche un po' più di anima tu. E se, grazie sempre a tutto questo. Ma c'è un'altra telefonata. Io vado sul computer. C'è Pierangela da Ferrara. Eccoti Pierangela, tutto per te Radio 24 e tutta per te Emanuela Rossi. Ciao. Pronto? Ciao. Posso parlare? Sì, certo. Buongiorno. Niente, io volevo dire, a me piace molto il cinema, ci sono sempre andato, anche una certa età. Quello che volevo dire è semplicemente questo: noi abbiamo dei doppiatori in Italia che credo siano i migliori in assoluto, anzi io credo, sono convinta che molti film, la fortuna di molti film, l'abbiano fatti i doppiatori, anche perché indipendentemente dal testo, secondo me loro hanno una cadenza e un ritmo che varia a seconda del, chiaramente, dell'argomento. Prima sentivo la doppiatrice che citava un testo che non è attuale e quindi avevo un respiro che secondo me era diverso da una parlata o da un dialogo di attualità. Esatto. Io credo. E poi un'altra cosa, oggi noi abbiamo dei doppiatori che sono eccezionali, ripeto, ma volevo ricordare l'elogio funebre di Marcantonio, un primo brando anni 50. Era Gino Cervi lì, pensa, credo. Sì, però ecco, no, ma non mi ricordo, come Amleto, il testo era stato tradotto da Cane perché Honorable Man, loro l'hanno tradotto uomo d'onore. Onorevole. Ah, uomo onorevole. Lì. Ma terribile in italiano, uomo d'onore che non vuol dire onorevole. Sì, perché? Ci sono dei periodi storici in cui l'adattamento era un po' più retorico da quel punto di vista e magari, ripeto, il doppiaggio è sicuramente una traduzione come di un libro, no? Se tu magari ci può essere anche questo tipo di traduzione in un libro di Shakespeare con a fronte la traduzione in italiano, è possibile che si trovino queste particolarità, insomma, per questo uno sceglie poi la traduzione migliore. Dimmi, scusa. I testi classici. Sì. Io sono un insegnante in pensione, quindi un po' di sintassi la conosco. E ripeto, a livello di ritmo e di correttezza semantica e sintattica, rimangono i migliori nostri. Ti ringrazio. Grazie, grazie Pierangela. Sei molto carina, poi detto da una professoressa, io purtroppo... Io prima ho letto naturalmente il testo di Molière, il Misantropo, l'ho letto un po' velocemente perché non stando a teatro ed essendo alla radio... In tempi radiofonici. Io tra le altre cose ho anche recitato nel Misantropo con Umberto Orsini, facevo la parte di Eliante, la signora conoscerà senz'altro il testo. Sicuramente. E mi ricordavo questa scena, era bellissima, durava parecchio. No, ma questa è la cosa bella, la declinazione che poi ha un attore, ovviamente bisogna stare attenti, i traduttori e gli adattatori devono essere loro prima di noi, noi dobbiamo a essere fare... attenti, certo. E noi siamo degli esecutori, sono tantissimi altri, oggi vi siete sbizzarriti con gli sms e le telefonate, spettacolo, una delizia per le orecchie e per il cuore, grazie Emanuela. Trasmissione bellissima, la collocazione della domenica pomeriggio non le rende giustizia o forse è perfetta, Marcello, sì, si sta parlando anche di una quotidianità di trasmissione. Grande Pino, bravissimo, bravissima Emanuela, buon pomeriggio Pino, una grande doppiatrice al tuo fianco. Da calabrese ti dirò che la Z è stato un grande problema, ovvero per noi la Z diciamo una simile alla S, mentre il doppiaggio la prevede alla romana. Per esempio vedi Zucchero e Zia, no, è Zucchero. È certo. È Zucchero, non diciamo Zucchero. Zucchero, come Zingaro, pensa. Però anche si dice pranzo. Pranzo. Pranzo. E Parabrezza? Ne vogliamo parlare? Il Pettegolezzo? Lasciamo stare. Il doppiaggio, eccetera, eccetera. Un abbraccio, buona diretta e Nicola. Grazie Nicola. E allora c'è un'altra telefonata. Io vi adoro, oggi siete... Sarà che non c'è il calcio e voi, ma però devo dire che va sempre molto bene. Ma oggi siete proprio... Vi state sbizzarrendo o sbizzarrendo? Una volta un nostro amico disse, ma scusa, ma si dice burza o borza? Tutte e due sbagliate. Sì. Come quello che disse, guardi quell'orsa maggiore. Sì. Che ci fu un po' di confusione, non ha legato orsa maggiore. E allora Barbara da Cesena, che sembra un nome di una pittrice, comunque. Barbara. Salve, buon pomeriggio. Adesso ciao. Tutti si sbizzarrisce perché io essendo di Cesena con la Z. La Z. Certo. No, innanzitutto buon pomeriggio e grazie della trasmissione. Io vi ho chiamato perché mi ha incuriosito il discorso delle voci del Nord, magari più dedicate al mondo della pubblicità. E in realtà io, lavorando nella pubblicità e lavorando comunque in Romagna e lavorando però anche molto col Nord, mi rendo conto che effettivamente se ci sono anche doppiatori o comunque speaker, onestamente ne conosco tanti, ma la maggior parte per il mondo pubblicitario sono quelli del Nord. Ecco. E soprattutto nel mondo della food, quindi per cui io lavoro molto sulle pubblicità del mondo alimentare, il mondo food si concentra abbastanza spesso sull'Emilia Romagna e quindi secondo me si gioca anche molte volte su dei doppiatori necessariamente di origine. Ma c'è il formaggio come quello di adesso, c'è la calata parmigiana, perché c'è il parmigiano, era giusto, quello era giusto. È giusto il topolino che parla parmigiano. Ci sta, visto che parla parmigiano, esatto, però sta. Effettivamente il doppiatore del mondo della pubblicità è un po' del Nord e come magari forse il mondo della cinematografia è un pochino più concentrata, diciamo, sul discorso romano, comunque sul disco. Io le fiction parlano tutti in romano, sono tutti di Roma, non si capisce. Ma le fiction, quelle in italiano, però quelle che non quelle doppiate, noi non facciamo niente in romano. Assolutamente, assolutamente. Comunque complimenti, perché io credo che comunque il doppiaggio sia italiano sia assolutamente di serie A. Io ho vissuto tanti anni in Spagna e ho sentito doppiatori che hanno in Spagna di film. Lì sembrano sempre arrabbiati i doppiatori. Orribili. E sta cosa è una faccia, senti, tutti i toreri. Alla faccia della spinta che diceva prima radioascoltatore, che viene data l'enfasi, no? Io complimenti, perché amo le voci italiane e ritengo che siano veramente, io ritengo le migliori in assoluto come qualità ma anche come capacità e interpretazione. Quindi, non ti biasimiamo affatto. Grazie Barbara, grazie del tuo intervento da professionista, che rimane inerente proprio al tema della puntata di oggi, che è quello del lavoro, la voce nel lavoro e in tutte le sue declinazioni, come siete abituati ad ascoltare da questa trasmissione ogni domenica. Si spazia veramente a 360 gradi nel mondo della voce. Emanuela anche è stata testimonial vocale, ovviamente. C'è una differenza quando si interpreta un film e una voce di una pubblicità con un claim? Ti dico, quasi per assurdo, che è molto più difficile fare il testimonial, cioè doppiare una pubblicità, che non il film. Perché nello spazio di 30 secondi tu devi mandare un messaggio che non è soltanto un messaggio, cioè un messaggio subliminale, anche emotivo, che tu mandi con la tua voce. Il claim finale è quello che sempre che salva poi il prodotto, perché anche qui a Radio 24 devi fare lo spot, certo. Non è che puoi fare. Radio 24, ci vediamo domenica, tutte le domeniche, no, alle 23, non si può fare. Io credo che poi la pubblicità deve arrivare non soltanto a livello visivo, ma il livello, diciamo così, vocale, sonoro, quello della voce, è quello più importante, perché è quello più sotterraneo che arriva direttamente al cuore. È subliminale, assolutamente. Sì, per cui la voce è importantissima. Come quella del profumo, che noi facciamo però una battaglia, dobbiamo cambiare assolutamente i claim di tutti i profumi. Noi siamo pronti qui a tradurli in italiano. Bravo. È come se io dicessi adesso, dopo questa chiara, Radio 24, ha capito che trasmissione è. Va bene, voi lo sapete che trasmissione è. Restate ancora con noi, chiederò a Manuela di rimanere ancora un po' al mio fianco. Volentieri. E c'è un grandissimo personaggio che vi presenterò subito dopo la pubblicità, a tra pochissimo. Attendiamo con... allora, sì, voi sanatomi. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno a Voice Anatomy. Rimane vicino al mio fianco Emanuela Rossi. Sì, molto volentieri. Prima di presentare il nuovo ospite, devo leggerli qualche sms. Voice Anatomy, grandissimi. Nel 1995 ero in Germania, ho visto un film di Totò doppiato in tedesco. Aiuto! Aiuto! Il doppiaggio sta al cinema come il pensiero sta all'anima. Un doppiatore di successo in mano alla chiave della vita. E la bella! Grazie. Bellissima. Questo ce la giochiamo. Sì. Finalmente una trasmissione che accende la luce su questa straordinaria arte tanto ingiustamente bistrattata. Grande Pino e Emanuela, vi aspettiamo sul foro dei doppiatori per regalarci qualche vostro parere, eccetera eccetera. Ciao Pino, la Rossi è pazzesca, starei ad ascoltarla ore anche se leggesse un libretto delle istruzioni. È un uomo sempre, vero? Pino, facci sognare di Frodo, perché io nel Signore degli Anelli il primo, essendo romano, ho urlato lì, Frodo! E giustamente il direttore ha detto, sembra la terra di mezzo fra Torpignattare e 100 celle più che il Signore degli Anelli. Va bene, e allora andiamo all'ospite straordinario di oggi pomeriggio, che sono tutti ospiti straordinari. Qualcuno ci dice, mandaci Frank, fra poco ci sarà anche il grande Frank Merenda, che lo stanno urlando negli sms. Signori, vi presento la professoressa straordinaria Anna Maria Testa. Inizia a lavorare nel 74 come copywriter mentre ancora frequenta l'università statale, è una giornalista pubblicista dal 1988, collabora con diverse testate, con la RAI, si occupa di comunicazione politica. Insegna presso l'Università La Sapienza di Roma, l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi di Milano, l'Università Yulm. Dal 2007 insegna all'Università Bocconi di Milano. Nel 2012 entra nella Hall of Fame dell'Art Directors Club italiano, prima donna pubblicitaria negli oltre 25 anni di vita del club, pensate. Nel 2015 progetta e lancia l'iniziativa No Profit, hashtag dillo in italiano, contro la diffusione dell'ita inglese. È bella cosa. Nel 2015 l'Università di Modena e Reggio le assegna il premio Pirella Comunicatore dell'anno e Woman Teach e le conferisce il premio Tecno Visionarie per la Cultura. Dal 2008 cura il sito No Profit Nuovo e Utile, di cui parleremo, dedicato a teorie e pratiche della creatività. È autrice di numerosi saggi su creatività e comunicazione, la parola immaginata, farsi capire, la pubblicità, le vie del senso, le creatività più voci, la trama lucente e minuti scritte. Senza ombra di dubbio, signori, è la più importante creativa italiana. Professoressa Anna Maria Testa, ce l'avevamo in linea, adesso è caduta, non lei ovviamente, ma la linea, anche perché dopo tutta questa presentazione si è un po'... Tu che rapporto hai con la pubblicità? Te la vedi? Sì, la senti, la segui? Ti piace la creatività nella pubblicità? Come no? Non solo la voce giusta nella creatività? No, ma interessantissimo. Ed eccola, l'abbiamo ripresa, Anna Maria Testa, professoressa, buonasera, buon pomeriggio. Buonasera, speriamo che la linea regga. Sì, lei reggerà la linea, basta, uno deve rimanere in linea. Ci diamo del tu, Anna Maria? Sì, volentieri. Ma sono molto contento, anche che io col mondo dei professori ho poco, soltanto il cognome che insegno, ma il resto mi lega meno. Io però. Non sono una professionista prestata all'università, sì, sì. Non, e allora, non ho atteggiamenti professorali. Allora, come dice, sì, no, dimmi. Allora, dicevo che senza ombra di dubbio sei la più grande creativa italiana. Secondo te la voce, come noi diciamo, è il mezzo di comunicazione più potente del mondo? Non starei a fare una graduatoria dei mezzi di comunicazione, perché ciascuno è potente nel suo ambito. Direi però che la voce, il tono di voce, è ciò che dà sia la comunicazione verbale sia la comunicazione scritta, perché c'è un tono di voce anche nella scrittura, tutta la sua tonalità emotiva. Se noi togliessimo la voce, togliessimo il tono di voce, sparirebbero le emozioni dalla comunicazione che facciamo attraverso le parole, e quindi sparirebbe il senso di ciò che ci comunichiamo. Mm-hmm. Ed è quello che noi cerchiamo sempre di raggiungere, insomma, facendo un lavoro certosino, proprio aggirando la parola in tutti i suoi meandri, aiutati anche dai bravissimi traduttori, adattatori e direttori di doppiaggio che abbiamo in sala. Senti, Anna Maria, insomma, sei d'accordo, insomma, su questa situazione della voce? Ci spieghi meglio però il ruolo proprio della voce nella comunicazione, cioè il public speaking, insomma, in politica. Tu sei una grandissima esperta di tutto questo. La voce è importante, dicevo, e il tono di voce, cioè il modo in cui le parole vengono accostate parlando, parlo di pause, parlo di cambi di altezza del tono di voce, e la struttura stessa della voce ci dicono molto di chi sta parlando e ci suggeriscono molto di più. Una voce tranquilla, bassa, profonda, ci suggerisce, come posso dire, ci racconta tutto praticamente, in qualche certo. modo. Sì, è una voce acuta, stridula, ci dice invece fragilità, ci dice nervosismo. E proprio per questo, Anna Maria, abbiamo un piccolo contributo di una politica proprio di questo periodo storico, ovviamente. Ascoltiamo un attimo insieme, Anna Maria. Per fortuna nessuno si è mai azzardato a mettere in dubbio l'onestà e la trasparenza. Cosa mi ha fatto male? Ecco. Direi praticamente... Va bene così. Anna Maria, qui la comunicazione è dura, Che cosa? Che durissima, credo che sia il nervolino questa. Sì, qua. Sì, no, senza ombra di dubbio, non è limitatrice. Inequivocabile. Esatto, non è Manuela che alleggerisce la voce, assolutamente. Il guaio è che adesso non importa che cosa stesse dicendo Iervolino, ma qualsiasi cosa sembrava detta dalla strega cattiva. Esatto, sembrava un cartone animato da quel punto di vista, ma la comunicazione è fondamentale. Io lo dico sempre, se si facesse un'analisi proprio accurata dei grandi leader della storia, senza considerare il colore politico e magari le parole che sta dicendo in quel momento, si capisce il motivo per il quale magari molte persone rimangono attratte da quel dato leader che tuona, se da un balcone oppure per la strada o addirittura da un pulpito ecclesiastico. C'è proprio l'importanza, è tutto lì. C'è anche da dire che non c'è una voce buona per tutte le occasioni. In comunicazione quello che premia sempre l'essere congruenti, quindi la voce deve andare assieme, non deve essere in contraddizione con ciò che si dice, non deve essere in contraddizione con ciò che si sta proponendo e con l'identità globale della persona o dell'impresa che sta parlando. Assolutamente, dimmi, scusami. Questo credo che sia anche una grossa sfida per un doppiatore, cioè deve entrare nel personaggio per trovare esattamente il cocktail di voce, pause, salti di tono, eccetera, che meglio esprimono e meglio restituiscono la caratteristica del personaggio. Sì, ti devi accordare con l'attore che stai doppiando, devi no? respirare con devi lui, respirare come si dice, con lui, entrare proprio lui in risonanza Sì, è tutto lì, entrare in lui con, in empatia assoluta, cercando sì. di non cambiare ovviamente i toni, come dicevi tu giustamente, non andare in contrasto, a meno che la retorica delle parole non consente quello. Prima dicevamo del discorso, aveva detto un'altra professoressa del monologo di Marcantonio sulla scalinata dove è stato ucciso Cesare, come si dice Cesare, non Cesare, Cesare, sì, no, sì. Cesare come Stefano, e lì si usa una retorica al contrario, un discorso, lui ha fatto questo, ha ucciso Cesare, ma Bruto è uomo d'onore, per cui certo. io quello che vi dico, non vi dico che Cesare vi amava tutti, ma tanto glielo sta dicendo, lo dice con una retorica molto calma e tranquilla, e non l'ula, non vi dico che vi ha regalato i giardini e tutto quanto, perché Bruto, insomma, lo sapete, Bruto è uomo d'onore. Senti, il blog di cui parlavo prima, che è un grandissimo successo, il fatto del nuovo è utile, e c'è una situazione molto interessante, le 30 milioni di parole, Anna Maria, che cos'è? Nuovo è utile il blog che cura da tanti anni per diffondere appunto teorie e pratiche della creatività. In questo c'è un articolo intitolato La sfida a 30 milioni di parole, che racconta una questione che ha proprio a che fare anche con la voce e con una dimensione speciale della voce, che è il mammese. Cioè? La storia è questa. la storia è questa. Studiosi americani scoprono che bambini delle classi più disagiate già a 4 anni hanno sentito 30 milioni di parole in meno di quante ne abbiano sentite i bambini delle classi medie o più abbienti. Da questa mancanza deriva, sì. dicono gli studiosi, ma mi sembra plausibile, un minor possesso del vocabolario e una minor capacità di gestire la realtà, e questo divario rischia di aggravarsi non appena i bambini vanno a scuola. Succede non solo meno sinonimi, meno parole per catalogare la realtà, quindi meno pensiero sulla realtà, quindi meno capacità di districarsi nella complessità del mondo. Ma che bello, sarà per questo che mio figlio dice solo papà casa, papà mangia, papà eccetera. Forse è colpa mia. Se ha solo 2 anni va bene così. No, 17, professoressa. Il problema è questo. Molto carino. È una fase. Certo. Comunque succede che il sindaco di Providence, una cittadina degli Stati Uniti, scopra questa ricerca, sì. decida di portarla sul territorio, di applicarla, decide di investire in questo un premio che ha ricevuto in una gara fra città, una somma messa in palio dall'ex sindaco di New York, Bloomberg, mm-hmm. e fa questa cosa molto semplice: manda sul territorio degli assistenti sociali a spiegare alle mamme delle classi più disagiate, che sicuramente sono genitori ugualmente amorevoli ma forse meno consapevoli, ecco, spiega alle mamme e ai papà che devono parlare di più ai loro bambini, non importa che facciano discorsi complicati, ma devono comunicare con loro, e devono farlo in quello che in inglese si chiama mammese, in italiano mammese. Eccolo il mammese. Che è la voce che cattura l'attenzione dei bambini piccoli, è quella che sembra assurda se la usiamo davanti a un adulto, ma sembra del tutto normale davanti a un bambino, ed è: piccolo, oh, che bravo che sei, sì. dai vieni che adesso mangiamo un bel gelato e poi ti leggo un librino, il tuo favorito, dai vieni, così. Questo è il modo di parlare. Questo è il modo. Questo però è il modo con le frasi complete, perché certe volte danno dei sinonimi le persone ai bambini. Vuoi il cipicipu o poi il plicuprino? No, questo magari no. È anche lo strumento utile, e questa voce mammese, per leggere libri ai bambini piccoli. Cammina, sì. cammina, a un certo punto Cappuccetto Rosso sente un rumore. Era il lupo cattivo che veniva a prenderla. Allora, Anna Maria, ti voglio chiedere una cosa. Io ho un figlio di 10 mesi. Se tu vieni a Roma una volta a settimana e passi da me dalle 20 alle 22, io sono disposto a pagare qualsiasi cifra per averti vicino a quel lettino e farlo addormentare. Dai, parlare il mammese è facilissimo anche per i papà, è un gran divertimento anche. È bellissimo. È un gran divertimento. Sì, è vero. Comunica emozioni ai bambini. D'altra parte, pensiamo che il primo contatto di un bambino con il mondo esterno, ancora prima di nascere, giusto. avviene attraverso le voci. Che attraverso bello. La voce della mamma soprattutto, no? Sì. E attraverso le vibrazioni della voce della mamma che lo raggiungono. Io gli parlo basso. Sentono sentono la musica, sentono le voci della famiglia. È vero. E questo li aiuterà a risentirsi a casa. E perché non mi riconosce mio figlio? Vabbè, ma questo è un altro discorso. Anna Maria, io ti ringrazio. Noi cercheremo di utilizzarti ogni tanto, se tu ce lo concedi, perché questo è un viaggio veramente trasversale a 360 gradi nel mondo della voce, analizzato in tutti i suoi meandri. Veramente un percorso integrato sulla voce. Grazie, grazie davvero grazie per il tuo tempo. Buona domenica. Grazie Anna Maria, un abbraccio forte. Anna Maria Testa, qui vicino a me c'è Emanuela Rossi, che io ringrazio. Grazie. Saluto e spero veramente ancora di sentire come tu ti amo, e sono arrivati altri migliaia di sms che ti vorrebbero sentire grazie. Per l'interregionale, forse anche, tu, in orari, sì, anche in orari serali qualcuno. Signori, a tra poco, Boys Anatomy. Boys Anatomy. Eccoci di ritorno in studio, Pino Insegno qui ai microfoni di Radio 24. Oggi siete molto molto attenti, state inneggiando. Allora, avete saputo che c'è Frank Merenda, vi racconto chi è. Andiamo bene. Buono, non parlare ancora, è una sorpresa. Allora, qui altri sms, sono una donna e da donna amo la voce di eccetera, per la trasmissione il titolo in italiano sarebbe più adatto, ma questo lo racconta bene il viaggio intorno alla voce, Boys Anatomy. Sono Francesco di Milano, abito da te in provincia di Imperia, mi è rimasta la E milanese con la cantilena ligure e ho provato la E esatta eccetera eccetera. Vabbè, non è normale poi mantenere le proprie inflessioni, è ovvio che noi facciamo questo di mestiere. E allora vi leggo questa breve biografia, perché dovete sapere chi è al mio fianco, perché sono persone che magari un laico non conosce, ma nel mondo del lavoro e della voce è veramente un leader assoluto. Assoluto. Non devi commentare prima ancora che io ti presenti. Guarda, è un imprenditore seriale che non ha nulla a che vedere con i serial killer eccetera, ma è un imprenditore seriale, i maniaci seriali, quelle cose. Creatore di brand di estremo successo come Venditore Vincente, del franchising di Poste Private Posta Power, del gruppo di agenzie assicurative Assicuratore Facile, nell'organizzazione Venator Fighting Championship, produttore del programma televisivo Guerrieri Italiani su onda su Fox Sport 2HD che ho avuto il piacere di presentare, inoltre autore del bestseller sulla vendita professionale Vendere fa schifo se non sai come farlo, quello è fondamentale. Unico studente italiano di Al Reese, bravo. Il padre del brand Positioning, nonché l'unico italiano ti odio, nella storia ad essere stato accettato da Dan Kennedy nel suo famoso Titanium Group. Mamma mia, il circolo ristretto dei marketer milionari si può entrare solo su invito e solo quando si è un seven figures. Ti odio ancora. Un figurino, quando un sei un figurino puoi entrare, se sei grasso non ti fanno entrare. Cioè uno che guadagna 7 cifre, sì. Ma soprattutto fai anche guadagnare, sì, a tante quello cifre. Sarebbe lo scopo. Il primo italiano specializzato nelle strategie di vendita e a creare un sistema step by step per vendere con successo, anche partendo da poca o nessuna esperienza. È coautore con Pier Nicola De Maria di Business Caffeina, il podcast di riferimento per la formazione al business in lingua italiana, primo in classifica generale su iTunes settimana dopo settimana, e in pochissimi anni ha creato un seguito fedele sul mio blog, e ce ne siamo accorti anche noi a Radio 24, visto che non ho letto tutti gli sms che arrivo. Quando arriva Frank dimmi che non se ne pensi, è arrivato qualsiasi cosa. Capito. In pochissimi anni, dicevo, Facebook di venditore vincente di decine di migliaia di persone che seguono le sue imprese, si affiliano alle sue società, frequentano i suoi corsi e comprano i suoi prodotti. Parlaci, Frank Merenda. Che il nome sembra di un film, quelli, no? Gli italoamericani, però tu non sei assolutamente così, Frank Merenda. Parlaci un po' di questo venditore vincente. Ma non è che sono morti a casa a leggere tutta sta presentazione? No, però è giusto presentarla, dai, lo so che è dura, c'è già una telefonata, neanche tu presentato. Va bene, pronto Gianni da Lucca, dimmi. Ciao a ciao tutti. Gianni. Ciao Gianni. Ciao Frank, credo che posso darti il tu. Ciao Gianni. Innanzitutto ti voglio ringraziare, perché io ti ho conosciuto per caso tramite un amico, ti ho seguito online, non ho ancora avuto opportunità di fare un corso con te, ho acquistato subito il tuo libro perché è talmente, perdonami, demenziale il titolo, ma simpaticissimo, che ho detto lo devo leggere per forza. Io mi occupo di formazione da 10 anni e soprattutto di formazione all'interno di un programma di network marketing, e devo dire che seguendo i brevi consigli che ho estrapolato dai tuoi corsi online, da quello che ho visto su YouTube e soprattutto dal tuo libro, la mia attività è decollata. Quindi volevo semplicemente collegarmi, mi fa piacere che me l'avete permesso, voi di Radio 24, e dirti semplicemente grazie. Domanda, dimmi. Ma tu com'hai iniziato? Ecco, allora hai fatto due, è quello che volevo sentire anch'io. Come hai iniziato, Frank? Gianni, io ho cominciato, c'è scritto anche nel libro in realtà, quindi magari se quando finisci di leggerlo lo troverai, però io ho cominciato direttamente appena finita la scuola, avevo 19, non avevo compiuto i 20 anni, ho cominciato a fare il venditore direttamente come agente immobiliare. Lavoravo all'epoca per il più grosso franchising italiano, ancora oggi lo è, che era Tecnocasa. E grazie anche a loro, grazie alla formazione molto attenta di quell'azienda, perché in Tecnocasa, devo dire la verità, sono estremamente molto molto molto focalizzati alla formazione, io mi sono appassionato nel corso degli anni a questa cosa e quindi ho continuato ad approfondire, quindi da lì in avanti, dai 19 anni in avanti, è tutta una vita che io ho continuato a vendere, a creare le mie imprese che tu ben conosci e poi ad approfondire con tutti i vari miei insegnanti internazionali, quelli che sono in retroscena della formazione, tutto lì. Anche perché un uomo del genere non lo segui se ti dà una fregatura come un attore, se ti fa uno spettacolo, anche se è famoso, ma lo spettacolo è brutto, il secondo non venga a vederlo. Frank invece ha costruito un impero straordinario di persone che lo amano, ma non è insomma, un guru che crea affezione religiosa, eccetera, non è una setta. Sono persone che lavorano nel mondo professionale da tanti anni e trovano ovviamente in lui un argomento molto importante. Domanda per Frank Merenda. Grazie intanto, grazie davvero. Grazie Gianni. Domanda per Frank, quanto è dura e quanto è importante saper dire no nella vendita, no a certi clienti, no a cose non importanti che ci rubano solo tempo ed entusiasmo? E si potrebbe andare avanti all'infinito. Grazie per la risposta, Alfonso. Alfonso, è durissimo riuscire a dire di no, soprattutto all'inizio, quando si è un dilettante, nel senso si sta cominciando ad approcciarsi alla vendita, perché si ha voglia di chiudere, si ha voglia di vendere, si ha voglia di portare la pagnotta a casa, si ha voglia di avere delle gratificazioni anche emotive, non solo economiche. Poi dopo un po' in realtà è veramente fondamentale imparare ad attrarre i clienti giusti, selezionare i clienti giusti e rifiutare le persone che non sono corrette per noi, rifiutare le persone alle quali non possiamo dare il 100%, non possiamo essere utili al 100%, non possiamo soddisfarli al 100%, e quindi di conseguenza scegliere solo quei tipo di clienti con i quali possiamo dare veramente il meglio. E dura all'inizio, nel tempo bisogna educarsi a fare questa cosa, cioè a dire di no. Pino e Frank, che coppia, gli studenti VV si augurano una vostra collaborazione, come usare la voce per vendere di più. Siete dei grandi, Simone, grazie. Sì, ma la nostra collaborazione sicuramente sarà molto molto intensa. Dai e Frank, questo è solamente un tifoso folle. Capito, ma crei veramente una, non si può fare una trasmissione così però. No, perché veramente non riesco a farti una domanda e la gente che non magari non ti conosce vorrebbe sapere qualcosa di più, invece sente, ma da questo si capisce quello che tu hai seminato. Bene, ci fermiamo per un attimo. Frank Merenda resta al mio fianco, anche se l'orario è quello giusto. Merenda, esatto. Chi si muove? Non ti devi muovere. No, chi si muove? Voice Anatomy è qui, aspettateci. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia, con l'etichetta multimediale, ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno a Voice Anatomy, sempre il vostro Pino Insegno. Oggi è puntata pazzesca da questo punto di vista, perché è veramente trasversale, con la grande Anna Maria Testa, Emanuela Rossi, e qui al mio fianco Frank Merenda, che sta facendo impazzire i centralini. Qui mi fa ridere molto quello che dice Riccardo: nella presentazione di Frank Merenda mancava solo una cosa, Pino, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Quando è avvenuta? Beh, io sono d'accordo, perché avevi fatto tutto sto popò di presentazione. Ciao Frank, ti conosco da anni, grazie ad amici, web e al libro, sei un mito, faccio vendita in diretta da 7 anni, il mio capo mi ha appena proposto di guidare un gruppo di nuovi venditori, a me piace la formazione, non mi sento ancora pronto per un incarico, tu cosa mi consigli? Grilli, Nazariano, eccetera. Anche qui puoi chiedere a Frank come secondo lui si può fare per capire bene quale sia il proprio settore in cui si può sfondare. Insomma, tantissime domande. Io voglio chiedere a lui, che magari può abbracciare un po' di risposte. Insomma, come si diventa venditori vincenti? Ovviamente tu hai dei corsi abbastanza lunghi e importanti e non puoi fare un bignami in pochi minuti, però te lo chiedo ugualmente. C'hai un consiglio per questi nostri ascoltatori che si avvicinano al mondo del lavoro, no, da questo punto di vista? Allora, cerco di essere sintetico, sì, perché le cose da dire ovviamente sono tante. I ragazzi stanno scrivendo anche tanto, diventa veramente impossibile rispondere a tutti. Però il concetto che c'è dietro a venditore vincente è portare un modo completamente nuovo, in particolare per l'Italia, un nuovo modo di intendere la vendita. In maniera ipersintetica, la vendita in Italia è sempre stata intesa come quella cosa che parte a freddo dal buongiorno buongiorno, due persone che si stringono la mano, e poi ci deve essere una persona che con grande sforzo, con grande determinazione, con grande passione, con grande grinta, ma anche con grande sofferenza emotiva da un certo punto di vista, perché la vendita è qualcosa di duro, deve cercare di convincere la persona che ha di fronte a comprare. Questa è la versione proprio brutta, secca di quello che dovrebbe essere, di come è sempre stata la vendita, quello che io nei miei libri o nei miei podcast in generale, nei miei post, definisco come fare la carne da cannone per le aziende. Venditore vincente ha portato invece in Italia per la prima volta quella che è la vendita professionale. La vendita professionale si differenzia dalla vendita carne da cannone perché c'è tutto un periodo che noi chiamiamo in maniera molto semplice il prima, cioè tutte quelle azioni che devono essere fatte da un venditore prima di incontrare il cliente per prequalificarlo e per rendersi agli occhi del cliente uno specialista della propria disciplina, del proprio settore, quindi uno specialista dal quale tu vuoi andare per ricevere una consulenza, dei consigli tra virgolette, quindi una prescrizione e non una vendita diretta, brutale, secca, dove sembra che il venditore stia in realtà cercando di mettere insieme il pranzo con la cena, con una sensazione molto brutta, sia per chi vende, a meno che non abbia un pelo sullo stomaco clamoroso, io non ce l'ho e non ce l'ho mai avuto, a parte gli scherzi da questo punto di vista, soprattutto per chi anche la riceve. Quindi per quello che il venditore è sempre stato percepito come una figura falsa, fastidiosa, invadente da parte delle persone, perché la vendita è sempre stata spiegata molto male. Quindi quello che voglio dare come consiglio, giustamente in risposta alla tua domanda, alle persone, è quello di approfondire proprio il concetto della vendita professionale, di non lasciarsi trasportare dalle idee sbagliate sulla vendita. La vendita non è qualcosa di manipolatorio, non è qualcosa che si fa contro il cliente, non è qualcosa che prevede l'inganno, la menzogna, il raggiro, l'uso delle parole per ipnotizzare il cliente, ma è invece diventare un punto di riferimento dal quale i clienti si lasciano quantomeno indirizzare o consigliare. Poi il cliente sceglie ovviamente se comprare da te, comprare o non comprare, quello è un altro gioco. Però il rapporto tra un punto di riferimento e una persona interessata a risolvere veramente un problema è qualcosa di gradevole sia per il venditore che per il cliente, ed è qualcosa alla portata di persone che anche non sono particolarmente estroverse, naturalmente determinate o particolarmente loquaci, perché c'è questo problema. In Italia il venditore è sempre stato percepito come qualcuno dalla parlantina che te la intorta, te la racconta. Adesso io purtroppo sto parlando velocemente, quindi sì, magari sì, sono i tempi radiofonici, quindi beh, non vorrei dare adito a questa cosa, no, di quello che parla veloce con la parlantina, però è così, ok? E in realtà la vendita, se fatta in maniera corretta, è alla portata di persone tendenzialmente anche più introverse, più intimiste, più timide, perché ci sono altri modi, non c'è bisogno di essere invasivi, un ciarlatano, un grande parlatore. Anzi, spesso e volentieri quando si è in trattativa il tono è molto pacato, molto calmo, molto lento, molto avvolgente. Ed ecco che la voce diventa protagonista in tutto questo, ovviamente anche il fisico, ma la voce è fondamentale per cercare di invogliare comunque dall'altra parte il cliente a comprare da te. La cosa giusta è che non devi essere assolutamente invasivo, perché ti accorgi immediatamente dalla voce quando uno vuole venderti per forse non fa altro che può svoltare il pranzo. Ora c'era buongiorno, c'è sempre questa cosa stentoria che tu dici grazie, no, e attacchi, senza neanche, magari era un amico tuo che ti chiedeva qualcosa. Sì, però sì, è fondamentale. Guarda, ne arrivano veramente tanti. Quanto è importante il dialetto nella vendita? Ma anche quello si può utilizzare secondo dove sei. Se stai nella tua terra, il cliente è della tua terra, è giusto magari capire, anche c'è anche un rapport, se non sbaglio, cioè chiaro, fondamentale da creare con il cliente. Se quello parla in un certo modo, devi rapportarti a lui o fare rapportare lui a te, ma non devi devo essere io a spiegare queste cose. Ci sono telefonate anche, ce ne sono due, tre, prendiamone una per volta. Laura da Genova, se non sbaglio, che lavora in un call center. Ecco Laura, tutto per te, Frank Merenda, vai. Sì, ciao Ciao Pino, ciao Frank, complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, la domanda che io vorrei rivolgere a Frank è questa, perché appunto lavoro in un call center e il mio strumento è la voce, però spesso mi dicono hai una voce simpatica, piacevole, però nonostante questo non sempre riesco, diciamo, a convincere e a vincere lo scetticismo dei miei interlocutori. Quindi vorrei sapere se esiste una tecnica un po' più specifica per rendere più efficace, insomma, più incisivo il mio approccio, diciamo, telefonico, per poi concludere, insomma. Ecco Frank. Grazie. Grazie. Ciao Laura. Allora, cerco di risponderti velocemente dandoti qualche informazione che ti possa essere realmente utile e non nascondendoti niente di quello che io penso, perché questo è il mio modo di essere, il mio modo di fare. Allora, lavorare in un call center innanzitutto è un mestiere estremamente duro, proprio perché fai costantemente quello che stavo spiegando prima, cioè contatti a freddo costantemente tutto il giorno, tutti i giorni, delle persone alle quali non, probabilmente non hanno voglia in quel momento di essere disturbate. Quindi innanzitutto devi metterti l'animo in pace, perché è un gioco di quantità, cioè non ci sono altre cose da fare se lo fai in questo modo. Secondariamente, sicuramente, se dobbiamo essere centrati, il lavoro sulla voce è fondamentale, quindi il lavoro di uno specialista come può essere assolutamente Pino nel lavorare da questo punto di vista, è chiaro che quando arrivi sul cliente giusto, se poi hai anche il tono giusto, la cadenza giusta e sai come utilizzare la voce al meglio, sicuramente i tuoi risultati si impennano. Su questo c'è veramente molto poco da dire, quindi ti invito ad approfondire l'utilizzo della voce, perché è strategico per la vendita, in particolare al telefono è ancora più strategico l'uso della voce, perché non hai la gestualità del corpo, quindi se non hai il giusto assetto con la voce non riesci a essere non riesce a catturare all'inizio quella che è l'attenzione del cliente. Ovviamente la telefonata, anche quelle poche telefonate buone sulle tante che sei costretto a fare, ovviamente si brucia. Questo è un peccato. Dall'altro punto di vista, dal punto di vista tecnico, in realtà c'è un modo corretto che noi in Italia non sappiamo fare, che è quello di utilizzare il call center, ma dopo aver riscaldato il cliente con una serie di materiali informativi, quindi con una serie di campagne di lettere di vendita, campagne informative via email, mandando dei video, dei podcast audio, quindi un marketing mix che è necessario fare prima di dare il via alle telefonate a freddo, però richiederebbe veramente aprire una finestra enorme, quindi questo. Ragazzi, è quello che sei stato molto chiaro, e questo te lo dice anche una persona che dice: nonostante Frank abbia una cadenza nettamente emiliana, una scioltezza nel parlare, nel farsi capire molto bene, questo nella convinzione della vendita è fondamentale. Un'altra persona dice: sono stato suo studente al primo corso 2012-13, ho relazionato al Premium Day, avevo detto a Frank che forse non aveva immaginato cosa sarebbe successo, non lo sapevo, oggi la realtà supera l'immaginabile. Grazie da Goffredo da Torino, così tanti altri. Bene, allora a questo punto rimanete sempre con noi, dobbiamo dare la parola per pochissimo alla pubblicità e torniamo immediatamente dopo con il nostro amico Frank Merenda. Grazie. Smau ti aspetta a Milano 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it vi presenta. Sanatomi. E come promesso siamo stati rapidi nel ritorno in studio qui a Radio 24, sempre in compagnia di Pino Insegno e Voice Anatomy, il viaggio intorno alla voce. Oggi il tema è il lavoro e abbiamo un grandissimo esponente di tutto questo che può raccontarci, in poco tempo ovviamente, non è come nei suoi corsi dove c'è un po' più di tempo e più tranquillità, ovviamente. Frank Merenda, tante le telefonate, ce n'è un'altra di Giovanni da Pescara, io lo accolgo. Giovanni, benvenuto a Radio 24. Ciao Pino, ciao Frank, la mia domanda è molto semplice. Io sono un informatore medico e spesso mi trovo a parlare con delle persone che trovo culturalmente molto messe meglio di me, e volevo chiedere come potevo fare, se c'era una tecnica per mettermi al loro stesso livello, se la voce poteva essere d'aiuto per questo. Allora, la risposta qui è un po' complicata, nel senso, la gente che mi conosce sa che io non ho peli sulla lingua quando rispondo, quindi tu sei un informatore sanitario, e se dobbiamo andare un attimo all'interno di quello che è il tuo settore, il problema della vendita nel tuo settore, oggettivamente, come anche in alcuni altri casi, per esempio nella pubblica amministrazione, e questa io lo dico senza problemi, mi prendo la responsabilità al 100% sì, di quello che dico, io non c'entra, quindi se dovete arrestare qualcuno arrestate me, è che non è un gioco completamente pulito. Se andiamo a vedere sui giornali in maniera ricorrente ci sono costantemente scandali tra, cosa non è complottismo, basta aprire i giornali in prima pagina, Glaxo, tutta una serie di scandali tra le lobby, i venditori, le lobby farmaceutiche, la corruzione ai medici, i viaggi pagati in Thailandia, i Rolex e tutte queste cose. Quindi diciamo che dietro è un mestiere dove vigono delle regole che vanno al di là della pulizia della vendita tra bisogno reale del cliente e capacità del venditore di fare il suo mestiere. Però parla chiaro se vuoi. Parlo chiaro, certo. Quindi, ciò detto... Non nascondere sotto metafora quello che tu vuoi dire. No, sai che io sono assolutamente in diretto. Questa è l'ultima puntata di Voice Anatomy, Pino Insegno. Sarà... No, c'è sui giornali, quindi io ripeto quello sui giornali. Sì. Assolutamente. Io non l'ho letto comunque. No, dopo te lo faccio vedere. Non ti preoccupare. A parte gli scherzi, però, tornando seri un attimo, sicuramente il tuo è un caso interessante, al di là del cappello introduttivo che ho fatto perché mi piace essere chiaro, che è quello nel quale il venditore spesso e volentieri, non solo nel tuo caso, si trova a avere a che fare con delle persone che ovviamente nel loro settore sono dei grandi professionisti, perché si ha a che fare spesso e volentieri con persone, nel tuo caso ovviamente sono persone stralaureate, con stramaster, praticantato e tutto quello che ne è dietro. Il gioco non è in realtà essere uno specialista inteso come più preparato tecnicamente o singolarmente sul prodotto rispetto al cliente, anche perché in tutti i settori oggi il cliente apre internet e in realtà ne sa molto di più della maggior parte dei venditori. Ciò in cui noi dobbiamo essere veramente specialisti e preparati invece è un'altra cosa, cioè essere preparati sulla natura del problema che vive il cliente, quindi essere lo specialista della risoluzione di quel problema al cliente. Nel tuo caso specifico non è che tu possa essere più preparato sulle malattie del dottore o sulla composizione farmaceutica del farmaco, non è quello che è in discussione, non è nemmeno importante per vendere, ma in realtà quali sono gli obiettivi che sta cercando di perseguire il tuo cliente, quali problemi ha nel perseguirli, e quindi il tuo lavoro è più quello in realtà di aiutare la persona a comunicare in maniera più corretta a sua volta con i propri clienti. Questo è quello che dobbiamo imparare a fare, cioè molti dei nostri clienti in realtà hanno bisogno di comunicare meglio il loro lavoro all'esterno, e noi come venditori, come fornitori, in realtà dobbiamo diventare, andare oltre al semplice fornirgli un servizio, fornirgli un prodotto, ma anche metterli nella condizione di essere capaci di rivendere a loro volta questo servizio, questo prodotto nel miglior modo etico possibile, ovviamente, ai certo. propri clienti. Poi sappiamo che nel settore sanitario non ci rimetto le mani sopra, però avete già capito come la pensa. No, ma infatti va bene, grazie. Sì, ma bisogna entrare in qualsiasi tipo di campo, devi diventare amico del cliente da questo punto di vista, capire veramente cosa gli può servire per arricchire il suo rapporto con gli altri clienti con cui avrà a che fare, insomma. Un'altra telefonata, a parte mille sms, c'è Isabella da Perugia. Pronto Isabella, ci sei? Sì, ciao. Benvenuta a Voice Anatomy, Isabella. Dici grazie. Tutto, anzi di a Frank tutto. Perché è un professionale. Ciao Isabella. Ciao Frank, ciao, piacere mio. L'emozione è grande, insomma, questo è tra parentesi. Allora Frank, io ti seguo da parecchio, ovviamente tramite la pagina, tramite i tuoi blog. La mia domanda era, siccome già conoscendo un pochino le tue tecniche, leggendo i tuoi libri, i tuoi post e quant'altro, mi chiedevo, no, alternando le tecniche nuove che tu insegni del tuo sistema, però comunque trovandosi intrappolati nel vecchio sistema tradizionale di vendita, parlo da rappresentante di del settore commodity, insomma, certo. tipografia, sì. quindi laddove le aziende, purtroppo, ahimè, adesso senza fare critiche a nessuno, non conoscono, non applicano, non applicano proprio il direct marketing. Sì. Qual è il elemento fondamentale da buttare via dal vecchio sistema e il primo da applicare del nuovo, del tuo? Bellissima domanda, Isabella. Allora guarda, qui abbiamo degli ascoltatori alle 24. Sono preparati, ragazzi. Poi vengono, anche perché vengono poi persone nettamente... Sì. preparate, per cui il rapporto è biunivoco. Vai Frank. Allora, prima di tutto volevo dire che capisco che tu sia molto così anche eccitata, imbarazzata da questa cosa, e emozionata, e tu pensa quanto sono emozionato io, questo di fianco a Pino, che è uno dei miei eroi da quando ero bambino, no? Quindi questa, no, volevo chiarirlo questa cosa. È vero, cioè, abbiate pazienza, no? E quindi, però tornando a noi seriamente, c'è una cosa che devi abbandonare velocemente, anche se sei incastonata in un'azienda che magari non conosce o non condivide ovviamente parte o totalmente quelli che sono le nuove strategie, quello che io insegno. Devi eliminare il più velocemente possibile, o limitare, non eliminare, non è che stiamo facendo pulizia etnica di metodologie, per l'amor del cielo. Il concetto è che devi limitare o eliminare la comunicazione uno a uno, cioè tutte quelle attività che presuppongono un tuo sforzo 100 per contattare una persona. Ti faccio un esempio: quando tu fai una telefonata a freddo a una persona, ci sei tu da una parte, dall'altra parte c'è una persona singola e la devi convincere semplicemente ad ascoltarti. Questa è un'attività che va limitata o non va fatta, perché richiede un enorme sforzo per parlare solo solo con una persona. Stessa cosa per il porta a porta, cioè ci sono io e dall'altra parte c'è una persona, ok? Quindi è troppo lo sforzo che stai facendo solo per attirare l'attenzione del cliente. Ci sono altre attività che mi permettono di contattare molte più persone per attirare la loro attenzione, sono quelle che noi chiamiamo le attività uno a tanti. La regina delle attività uno a tanti, per esempio, è lo scrivere una lettera di vendita. Quando tu scrivi una lettera di vendita ne puoi inviare 1000, 10.000, 100.000, 500 semplicemente, però è un'attività uno a tante persone che contemporaneamente entrano in contatto con la tua offerta, la tua proposta, le tue idee, la tua focalizzazione sul marketing, e quindi di conseguenza ti permette di attrarre e anche di scremare il più possibile i clienti qualificati, premotivati, prequalificati proprio a volerne sapere di più, a comprare. Poi un altro gioco, dopo bisogna fare la trattativa uno a uno, no? Però è il discorso che facevi prima, per cui è un'attività multi-market, multitasking da quel punto di vista, per poi stringere sempre di più, perché così c'è già una grandissima selezione, puoi parlare con chi realmente poi è interessato. Questa è la chiave, bravissimo Pino, cioè parlare con chi realmente è interessato, quindi non sprecare il mio tempo nella parte iniziale del lavoro a cercare la persona interessata. Cercare le persone interessate si fa con strumenti uno a tanti. Poi la vendita è sempre una colluttazione, cioè poi c'è sempre le botte come Venator, no? Uno a uno, però quello sforzo lo devo mettere in campo quando ho a che fare con una persona interessata. È inutile usarmi con tutto il lavoro di schiena, di fatica, solo per trovare qualcuno che vuole ascoltarmi. Trovare qualcuno che vuole ascoltarmi si fa con strumenti scientifici di marketing e non con il mio lavoro. Ci sono i psicologi, sono 50-60 euro l'ora, te lo rendi uno e ti ascolta sicuramente. Sì. Bene, andiamo a Milano da Cosmo, che è un nome che già abbraccia tantissimo. Straordinario. Bellissimo Cosmo è veramente bellissimo. Bello. Vediamo, Cosmo. Sì, il nome è niente di particolare, è semplicemente il tutto. Allora io ho voluto chiamare perché ritengo, quando c'è una voce che parla con dei contenuti, c'è anche chi ascolta, e la qualità della voce è importante, però bisogna tenere presente anche l'importanza della capacità di chi ascolta di capire il valore dei contenuti indipendentemente dalla qualità della voce. Certo. Questo è un fattore che secondo me occorrerebbe segnalare, parlarne molto molto molto di più. Certo, non è la qualità della voce, la quantità che che quella voce sta dicendo, insomma, soprattutto la qualità. I contenuti, purtroppo, siamo sommersi da un'induzione a bere, a far sì che venga bevuto qualunque cosa, no? In virtù del modo in cui le cose vengono propinate, e questo invece occorrerebbe riuscire ad evitarlo, anche ascoltando voci sgradevoli, antipatiche, ma riuscire a rimanere immuni da questo e andare a cogliere veramente l'essenza di ciò che viene a dire, e quindi proteggersi da coloro che nei modi suadenti, eccetera. Ci sono molte molte radio, ad esempio Radio Mater si avvale di voci melodiose, eccetera, proprio per tenere attaccate le ascoltatrici, le anziane, eccetera, assuefatte da questo ascolto, così come molti altri, magari lo stesso Pannella ha una bella voce, eccetera, anche lui ottiene questo effetto. Cosmo, grazie, ecco, dimmi. Chiaro, buongiorno. No, stato chiaro, aspetta, volevo farti dei complimenti, perché questa credo che sia una delle trasmissioni in cui anche gli ascoltatori sono protagonisti, nel senso sono ospiti. Perché la tua disquisizione, il tuo racconto sulla voce, su questa cosa, non ha bisogno di risposte. Sei stato molto chiaro e sei stato un ospite di questa trasmissione. Con sommo piacere. Grazie Cosmo, grazie davvero. Grazie mille. Bene, ancora continua a venire ovviamente complimenti alla trasmissione. Grazie Frank per tutte le nozioni e consigli dopo Venditore Vincente. La mia visione sulla vendita è cambiata. Pino, scusa, posso dire una cosa rispetto a quello che ho detto Cosmo? Perché Cosmo in realtà ha ragione, nel senso che ha fatto un intervento che è corretto. Io vorrei riportarlo in un secondo a ciò che è il mondo reale della vendita, nel senso che purtroppo noi dobbiamo imparare a utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per essere più efficaci nella vendita. Quindi il mio problema non è se uno ha una voce bella come la tua, suadente o quant'altro, efficace per vendere. È necessario avere e migliorare costantemente tutti i propri strumenti. Il problema, Cosmo, non è la gente che conosce con un utilizzo della voce corretto come arrivare meglio al proprio pubblico. Il problema è avere delle persone più etiche che usano questi strumenti poi per vendere delle cose che abbiano un senso. Quindi il problema è, se Vanna Marchi ha una bella voce ma mi vende il sale che si scioglie, il problema non è la bella voce, non ce l'ha, per l'amor di Dio, ho fatto un esempio sbagliato. D'accordo? Cioè, ho fatto un esempio assolutamente sbagliato, però per citare una persona, ok, quindi il concetto è questo, assolutamente. Bene, allora restate con noi, avete visto che puntata, ce ne vorrebbero altre 3 ore. Fra poco torniamo, grazie. Voice Anatomy. Che puntata, ragazzi, così comincia un SMS, che puntata, non riuscirò a parlare in diretta, tuttavia Frank ad ottobre lo conoscerò di persona, chissà quando conoscerò anche Pino, chissà succederà. E allora, a parte il nostro grande amico Frank Merenda, un altro amico, ma amico, un grandissimo professionista dall'altra parte dello studio, il signor dottor Alessandro Annese, vi racconto la sua biografia. Lui è stato nominato responsabile delle risorse umane per British American Tobacco in Italia nel 2014, proveniendo dal gruppo Indesit, per il quale negli ultimi 3 anni ha ricoperto il ruolo di HR Executive Director for Sales Marketing. Io vi odio tutte e due oggi. E Operations, ma siamo in Italia! Oh, santa miseria, io non sapete quando capito i film in inglese, i nomi e queste situazioni che, come dici, New York, Los Angeles, beh, lasciamo stare, quello è semplicissimo. Negli ultimi 18 anni, dopo l'esordio professionale in consulenza d'organizzazione, Alessandro ha gestito diversi ruoli di responsabilità nelle risorse umane in vari settori, tra i quali il largo consumo, Carlsberg Breweries in Italia, vi riodio, e le telecomunicazioni Cisco Systems, prima in Italia e successivamente sul sud d'Europa. Sono circondato da pezzi di carta straordinari chiamate lauree. Io ho fatto l'ISEF, però nel frattempo, benvenuto Alessandro. Buon pomeriggio. Grande professionista che ha a che fare con le persone, ma soprattutto ha a che fare anche soprattutto con la voce delle persone, con la sua quando parla davanti a sé un piccolo grande esercito di persone. E nel corso della sua carriera Alessandro ha scelto, assunto e gestito i più importanti manager del nostro paese. Che rapporto esiste tra un buon manager e la sua voce? Allora, intanto una piccola premessa per aprire questo tema. Quando parliamo di mondo del lavoro e parliamo di aziende, parliamo di aggregati sociali, cioè parliamo anche di gruppi di persone in cui è fondamentale chiarire quali sono le leve per interagire con loro, quindi la comunicazione, che sia efficace, che sia diretta, che sia chiara. Ancora di più importante, relazioni interpersonali. Sono argomenti che si indagano sempre di più in azienda, su cui si esprime sempre più valore, si investe sempre di più. Se noi pensiamo semplicemente a quello che è cambiato negli ultimi 20 anni in azienda, 20 anni fa il manager era il super esperto di una materia, capace di condurre persone, progetti, attività in modo efficace. Oggi il manager coordina gli umori, la volontà, siamo a un livello psicologico e l'ingaggio psicologico delle persone, certo, per arrivare a un risultato. Quindi partiamo da un presupposto: il manager deve gestire comunicazione, quindi prima di tutto deve saper parlare e gestire la voce, gestire il linguaggio del corpo, avere la possibilità di interagire in modo efficace con chi lo circonda. Chiaramente, se parliamo di voce, io adesso non entro nel tecnico perché entrare in tua presenza nel tecnico mi sentirei veramente... No, ma invece io apprezzo e imparo ancora di più. Io sono un semplice auditore in questo momento, come con Frank dall'altra parte. C'è ovviamente dei tempi radiofonici, dei tempi da rispettare sicuramente, però io ascolto e imparo, anche perché per me il mondo delle aziende, sì, lo conosco come comunicatore eccetera, ma è affascinante da quell'altro punto di vista, dal suo interno. Meglio di te non lo conosce nessuno, come meglio di Frank. Il manager deve essere in grado di gestire i registri vocali, quindi il timbro, l'altezza, la frequenza. Deve essere in grado di utilizzare questo strumento. Sei un foniatra praticamente nella tua azienda, insomma, un odorino laringoiata. È difficilissimo oggi per un manager relazionarsi, rapportarsi con organizzazioni complesse, numericamente molto ampie, ed essere sempre incisivo, essere sempre efficace. Prima di tutto è la voce, prima di tutto è misurare come interagire con la voce. E questo, insomma, mi sembra la trasmissione giusta, per questo cerchiamo di interagire anche con grandi professionisti di altri settori, non soltanto quello della comunicazione su un palcoscenico o attraverso una pellicola. Senti, è per cui durante un colloquio di lavoro la voce ha un peso fondamentale per un candidato, no? Assolutamente. Cioè, se mi presentassi io in qualche modo tu me prendi, però riesci a capire, come ha detto prima un ascoltatore molto interessante e intelligente, sì, la qualità della voce, sì, ma soprattutto anche la qualità della quantità delle nozioni che quella voce sta esprimendo. Perché altrimenti dice: che bella voce che c'è. Bene, oggi ti metto qui e fai l'annunci. Ore 12:30, pausa mensa. Cioè, succede questo, no? Per cui la voce sì, sicuramente è importante. Infatti si faranno dei percorsi insieme a Frank di questo tipo, insomma, per chiudere il cerchio. E in che modo attraverso la voce si può gestire una leadership? Che dici, Alessandro? Allora, intanto un punto sul colloquio secondo me è importante. Sì, immaginate, c'è una ricerca che dice che un intervistatore si fa un'idea della persona a cui sta facendo il colloquio nei primi 10 minuti, e questa idea costituisce circa il 70%, che poi va raffinando nel corso dell'intervista. È così, Franky, no? Assolutamente così, assolutamente così. Sono d'accordo, perché è così. È come quando noi andiamo a raccontare uno sceneggiatore e dicono gli americani: tu mi devi saper raccontare una storia, mi deve affascinare nel primo minuto, perché la storia deve evolversi subito e mi interessa lì, lo dicono i grandi produttori americani, lì è un minuto e mezzo devi raccontare, cioè è la storia di un pugile dilettante al quale viene data la possibilità di vincere il campionato del mondo dei professionisti. Questo è Rocky. Fine, non c'è bisogno di raccontare quant'altro intorno a tutto questo. Sì, ma lì è un candidato che sta cercando di vendere il suo curriculum all'esaminatore, quindi non è una cosa diversa dalla vendita, è la vendita. È la vendita, come assolutamente. No. E quindi è fondamentale. Per cui è tutto lì, anche tu ovviamente fai parte di questa scuola di pensiero. Assolutamente, è fondamentale lavorare bene sulla prima parte del colloquio. Fondamentale, usare le parole giuste, dimostrare equilibrio, perché quello che si va ad indagare, oltre la competenza, è la possibilità di inserire questa nuova persona in un'organizzazione già esistente, e quindi portare equilibrio fra colleghi. Bene, questo è importante, sì, è vero, perché non solo deve essere lui in grado di rappresentare se stesso, ma dopo dovrà integrarsi con uno spogliatoio, come si dice in termini calcistici. Sì, sei bravo, sei forte, ma il tuo carattere, soprattutto il tuo modo di essere, sì, riuscirà ad integrarsi con tutto il gruppo. Beh, dunque, tu hai lavorato con grandi manager provenienti da tutto il mondo, perché ecco perché quelle parole in quella lingua particolare che è l'inglese, che meno male che me la traducono ogni tanto. E in che modo si ottiene integrazione tra persone che dialogano in maniere differenti? Ecco, anche questo. Ecco, questo anche è un bravo allenatore di calcio, che ormai nello spogliatoio chi parla lituano, chi parla tedesco, chi parla russo, chi parla... Anche questo, infatti ci sono tanti paralleli con lo sport in questo. Considera che la preparazione del manager nel corso della sua carriera è verso l'adattabilità a diversi contesti e diverse culture. Si parla di flessibilità come elemento principale nello sviluppo e nella formazione di un manager. In realtà la flessibilità si traduce in adattabilità a forme di comunicazione diverse. Cosa intendo? Non parlo solo di strumenti, parlo per esempio di poter interagire in maniera efficace in una lingua che non è quella nativa, utilizzando la stessa enfasi su alcune parole, gli stessi suoni che si sente dall'interlocutore, perché mettere l'interlocutore sullo stesso piano vuol dire creare ingaggio, abbassare le difese, abbassare le barriere che limitano la comunicazione. Mamma mia, ragazzi, che paura tutto questo. È vero, perché in molte aziende si parla anche in Italia, ma l'inglese deve essere, no, la lingua poi più usata, ovviamente. Assolutamente. Io non farei parte di queste persone che fanno parte di questa azienda. Io parlo mai un inglese, che sono tutte le forme idiomatiche dei film che doppio. Ogni tanto qualcuno scopre da che film è tratta la parola che io sto dicendo e faccio una figura barbina, soprattutto quando lo utilizzo magari con una ragazza. Una volta ho utilizzato la frase di Pocahontas, che gli dice Joe Smith, e il problema è che lei era inglese, americana, aveva visto Pocahontas e ha capito che voleva da quel film, l'avevo preso, per cui lei andò via, perché dice: non me la canti la canzone subito dopo sta frase, ciao, grazie, arrivederci. Per cui pesa molto, insomma, la conoscenza della lingua pesa tantissimo in un manager. Assolutamente, e non solo della lingua in sé, non solo della lingua grammaticale, cioè, ma anche, è vero, anche del modo in cui viene usata. Ecco che rientra in campo la voce. Certo. Ecco che rientra in campo modulare i suoni ed essere allineati all'interlocutore per raggiungere subito la famosa empatia. Soprattutto se lui è madrelingua da quel punto di vista, altrimenti magari si può anche cercare, però è importante. No, no, però se pensi a come per esempio un russo parla inglese, uno svedese parla inglese, è incredibile la differenza in termini proprio di tono. E certo, perché a quel punto entra in palo una cosa come italiano, è italiano, questo è pure rumeno, in questo modo, pure è questo modo di parlare, poi diventa inglese. No, non è facile assolutamente, perché deve essere molto fluido il modo. Tu hai lavorato nelle aziende internazionali, per cui ormai tu la lingua. Posso doppiarti io quando parli in inglese e c'è davanti a te un gruppo di italiani. Tu, invece, Alessandro, che rapporto hai con la tua voce? Ecco, e quello è sempre un rapporto molto difficile. Esatto, perché poi, come si sa, anche conoscendone le tecniche, poi ognuno magari non applica tutto su se stesso. Sì, come i medici, assolutamente. Non si mettono quella pomata, fanno mettere agli altri. Esatto. In realtà io parto dal presupposto che a me non piace la mia voce, perché la vorrei diversa, mi piacerebbe diversa. Sai, io posso dirti come tecnico da questo punto di vista, è soltanto una grandissima abitudine nell'ascoltarsi. Io il consiglio che posso dare da laico del mondo professionale da questo punto di vista è imparare ad ascoltarsi, nel senso che uno quando parla sente che ha una tipologia di voce perché risuona all'interno del tuo corpo in un certo modo, poi esce ed esce in un altro modo non totalmente differente, ma il suono che senti è sicuramente diverso. La cosa che io posso dire come piccolo consiglio è quello di cominciare a registrarsi durante il giorno con degli apparecchi, ormai ci sono tutti i telefoni ce l'hanno ormai, una volta dovevi avere il geloso oppure il registratorino, prendere un giornale qualsiasi e leggere, cominciare a prendere intanto confidenza col suono della propria voce, perché devi essere convinto che quello che stai utilizzando nel modo che lo stai utilizzando è giusto, è piacevole da quel punto di vista, perché devi piacere a te. È difficile che noi ci stiamo simpatici, io pure non mi riguardo mai, qualcuno dirà fai bene, però non è difficile accettarci. Io ho cominciato ad accettare la mia voce nonostante facessi il doppiatore dopo tantissimi anni che la ascoltavo, perché ho dovuto fare proprio, è come quando stai in macchina da solo e fai delle facce che sei convinto di imitare quell'emozione, quell'espressione, poi ti guardi allo specchietto e ce n'è un'altra di faccia, perché anche lì non abbiamo l'abitudine nel sapersi guardare da quel punto di vista, per cui è fondamentale questo. Questo è un consiglio che uno può dare, ma proprio anche questo è un piccolo bignami da questo punto di vista. Registratevi, ascoltatevi, soprattutto ascoltatevi nel modo giusto, perché certi registratori come la segreteria telefonica poi ovviamente diventa metallica la voce, diventa così e non è mai la tua voce da quel punto di vista. Per cui ti sei trovato anche di fronte a persone che hai dovuto mandare via o prendere. Non è solo la simpatia, c'è anche empatia in questo, per carità. No, non c'è soltanto, c'è un curriculum che parla sicuramente, ma poi la persona che fa quel curriculum sa parlare? Questa è una gran bella domanda. Io credo che non ci sia alternativa. Si deve saper parlare. Si deve saper parlare, si deve avere la capacità, come dicevi tu, di ascoltarsi. Magari non si ama il suono della propria voce, lo si vorrebbe diverso, ma non c'è alternativa. L'unico modo per essere efficaci è saper parlare, sapere esattamente come sostenere una frase, un periodo. Guarda che viene bene, di per esempio Radio 24 sussurrandola piano piano davanti al microfono. Radio 24. Ancora più leggera, più vicino al microfono. Radio 24. Più leggera, falla uscire soltanto appena la voce. Radio 24. Vatti a risentire adesso a casa quando hai sentito il podcast e poi dirai, chiama tua moglie subito dopo. Restate con noi, Frank Merenda, Alessandro Annese, tra poco con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Eccoci, sempre qui in diretta dagli studi di Roma di Radio 24, puntata veramente ricca di qualsiasi tipo di intervento e qualsiasi tipo di discorso in questo viaggio intorno alla voce. Frank Merenda, che l'abbiamo avuto, è ancora qui vicino a noi con una bella dialogo, ma lavoreremo ancora a proposito del venditore vincente e quant'altro. Al mio fianco, alla mia destra, invece Alessandro Annese, che è direttore capo delle risorse umane, o come si dice adesso? Direttore delle risorse umane. Direttore, che si dice così? Non in inglese, com'è? Human Resource Director. Ok, bene, allora abbiamo, sì, mi sto muovendo davanti al microfono, dicono, penso, a me che mi correggono come devo stare davanti al microfono, esattamente, perché vedete che succede, se io mi muovo davanti al microfono va via la voce da un'altra parte e sembra che sto parlando in una stanza, invece torno, ecco, effetto Larsen. Abbiamo una telefonata che sottoponiamo ai nostri due graditissimi ospiti, e allora è Riccardo da Ascoli Piceno. Ciao, buongiorno. Benvenuto Riccardo. Buon pomeriggio, mi sentite? Ti sentiamo perfettamente. Eccoci qua. Vuoi fare un saluto a tutti voi, a Frank, a Pino e l'altro non mi ricordo come si chiama, Emanuele forse? Io ho una difficoltà con i nomi. Sì, pronto? Io mi chiamo Pino. Frank alla mia sinistra, alla mia destra Alessandro Annesi. Alessandro, ecco. Io volevo fare una domanda a Frank, una domanda che diciamo, un proprio come si chiama Alessandro? Ma tanto faccio ciao rispondere. Alessandro. Ciao. Dici. Niente, una domanda dove diciamo un problema che tutti i neofiti diciamo venditori andranno incontro. Io purtroppo non ho potuto frequentare un corso di Frank in quanto ero all'estero per lavorare, quindi dove eri Riccardo all'estero? Ho fatto uno stage, ho vinto una borsa su europea per Siviglia. Ma sì, parlavi uno spagnolo alla Scuola di Vigeno? Parlavo lo spagnolo della Scuola di Vigeno. Questo poi è più fermano, non è proprio la Scuola di Vigeno. Perdonami che capirai, se sbagli 10 km la città diventa un'altra storia, perché l'Italia unita, Garibaldi ha fatto una fatica e noi invece da palazzo a palazzo. Insomma, 10 km da questa parte cambia l'accento, non era impressionante, sì, quindi roba di pochi chilometri. È difficile, infatti voi lì in Veneto è così, insomma. Sì, sto scherzando. Oh, che tra l'altro non sbagli niente, perché il mio cognome è veneziano. Come ti chiami di cognome? Menetto, che è veneziano. Veneto, è vero. È veneziano. Riccardo Veneto. Senti, qual è la domanda allora per i nostri amici? La domanda è, riguardo il problema di tutti i nostri venditori, è l'ansia, la paura, gli ostacoli della vendita. Diciamo, io lavoravo pure anche per diverse agenzie di fotografia, quindi vendevo durante l'arco la giornata e diciamo il linguaggio non mi è mai mancato. Però diciamo, inizialmente, anche se sono molto ragazzo aperto, un po' ce l'ho avuta, un po' di paura, un po' di ansia. Per fortuna che sei ansioso, fio mio, perché non c'è tempo manco di rispondere. Adesso sei stato perfetto, resta in linea, non ingrassare. No, resta qui, davvero, che ti rispondano sia Frank che Alessandro. A proposito dell'ansia, che mi sembra invece un argomento molto, molto, molto importante per quanto riguarda il mondo del lavoro, della voce, perché cambia, la voce con l'ansia si stringe la gola, insomma, tante cose tecnicamente accadono. Ma che succede, insomma, con quest'ansia, Frank? Allora, l'ansia è una cosa normalissima quando vendi, perché la vendita è un mestiere nel quale è un mestiere di contatto, è uno sport di contatto nel quale tu fai delle cose e dall'altra parte la gente reagisce, quindi la persona che è dall'altra parte ovviamente fa delle cose, e molte volte se è una vendita che parte a freddo non è una cosa gradevole, nel senso che c'è il problema del rifiuto, c'è il problema di non essere accettato, c'è il problema che le cose che tu stia facendo non vengono apprezzate o le cose semplicemente non vadano nella direzione normale nella quale tu desideravi e avevi previsto, e quindi appena la linea della tua previsione si scosta perché le reazioni del cliente non vanno nella direzione che tu vuoi, comincia ovviamente l'ansia a salire. Per cui è meglio non prepararsi niente, secondo te, o almeno sì, una base prima di affrontare il manager, oppure no, nel senso, se ti prepari una cosa, quello ti risponde in un altro modo, tu ti blocchi, entri in ansia. Sì, diciamo, se hai uno script estremamente semplice, proprio tipo poesia di Natale, quello è il problema. La maggior parte dei venditori hanno la poesia di Natale in canna. Buongiorno, siamo qui per questo, allora non vorremmo tanto. Gli sposti di un millimetro, ovviamente, finisce lì, no? Ok, quindi ovviamente devi essere molto più preparato rispetto al livello standard, carne da cannone, poesia di Natale detta 100.000 volte. E dall'altra parte, è l'altro modo di combattere l'ansia è ovviamente la vendita professionale, nella quale prima di incontrare il cliente già è entrato in contatto con te, con le tue idee, le cose che dicevamo prima, in modo che tu abbia una presentazione e la persona sappia già di che cosa andremo a parlare, di cosa andremo a confrontarci, e soprattutto ti percepisca non come un piazzista, ma ti percepisca come un professionista, quantomeno da ascoltare. Okay? Cambia completamente la relazione. Riportando però un secondo il tema sul tema centrale della trasmissione, la capacità di controllare la voce in realtà permette enormemente di influire fisiologicamente sull'ansia, cioè quindi se uno è in grado di usare la voce come tu sei in grado di usarla, in realtà è anche in grado di calmarsi e di calmare la persona che sì, è e poi il respiro è la cosa fondamentale, sia per la recitazione sia proprio per calmare se stessi. E Alessandro, la stessa domanda a te nei colloqui di lavoro, l'ansia quando ti incontri con delle persone che riconosci tutto questo, riesci tu a calmarli oppure vuoi vedere se riescono da soli a trovare quella lucidità per presentarsi al meglio? Beh, normalmente si tende sempre a mettere a proprio agio l'interlocutore, perché bisogna cercare di capire il massimo possibile. Certo. Però devo dire che la dinamica che descriveva Frank è la stessa, cioè c'è sempre la stessa dinamica cliente-fornitore. Io ho preparato qualcosa da dire a chi mi sta intervistando, se chi mi sta intervistando cambia le regole, io vado in ansia, ma è un'ansia buona se governata, perché se gestita bene, lavorando bene con la voce, dà la possibilità di dimostrare quel giusto senso di tensione che ci sta in un'intervista. Alla fine apre l'interlocutore anche ad apprezzarmi, a valutarmi meglio, perché vede che sono umano, vede che sono naturale, il più naturale possibile. Vedete che bello, io da questo modo poi di parlare trovo i miei interlocutori molto, molto tranquilli, molto più tranquilli di me, perché mi rendo perfettamente conto che certe cose io ne sono molto avvezzo, per cui sono veramente un bambino come un uccellino su un nido che si sta cibando di queste piccole grandi pillole che questi due grandi manager mi stanno regalando, come voi mi regalate ogni domenica. Siamo arrivati praticamente alla fine, manca un minuto, due minuti a salutarci, e io sono veramente molto contento e soddisfatto di quello che sta succedendo in questa trasmissione. C'è un'altra domanda per Alessandro, ne sono tanti di sms. Il tono di voce del manager deve cambiare a seconda se parla con un superiore o un subalterno? Ah, questo è bellissimo, rispondo velocemente. Abbiamo un minuto ancora. Si ha sempre la percezione di dover utilizzare toni diversi a seconda dell'interlocutore. E come era il telefono una volta, che facevi, se più era lontano e più facevi pronto, senti, allora, e se invece stavi a Roma, su Roma, dice, allora senti, ci vediamo a pranzo. Questa... Allora, l'errore che si fa alcune volte è quello di pensare di potersi rilassare o di lavorare meno o peggio con un subalterno. Certo. In realtà la relazione è la stessa, il tipo di relazione, lo scopo che si vuole raggiungere è lo stesso, trasmettere informazioni o passare un'idea o ottenere qualcosa. Quindi in un certo senso bisogna avere lo stesso tono di voce con la stessa attenzione nel modulare la voce. Siamo allineati, Frank? Assolutamente allineati, assolutamente. E allora a questo punto io, prima di chiudere, manca pochissimo, chiedo ad Alessandro Annese, lo prenderesti Frank Merenda la tua azienda? Direi proprio di sì. L'ultima ora mi dice proprio di sì. L'ultima ora dice. A questo punto ho trovato, non avevi grazie bisogno. però sappiamo che se i corsi dovesse un giorno, eccetera, è Alessandro, tu sai ovviamente l'inglese perfettamente. Sì, abbastanza. Anche il brasiliano. Anche il brasiliano, il portoghese, claro che no. Falo, come no. Senti come cambia anche, lo vedi? Sentite anche la voce come su cambia. Cioè va su il portoghese, comunque il brasiliano, come lo spagnolo è esta cosa, invece il sudamericano esta cosa è differente. Va bene, allora vi ricordo i nostri numeri, ovviamente soprattutto non più della diretta, degli sms eccetera, ma i nostri numeri, quelli per la nostra trasmissione, cioè ovviamente tutti i social, Facebook Voice Anatomy Radio 24, Twitter ovviamente c'è la nostra Voice Anatomy, e poi ci sono i numeri di telefono per il nostro Voice Talent, per lasciare la vostra interpretazione, per essere poi invitati qui a Radio 24 in diretta oppure tramite telefono, per poi partecipare magari al doppiaggio di un buon film, ovviamente non da protagonisti. Il numero 828 12 12 oppure voceanatomi@radio24.it. Signori, grazie a Frank Merenda, grazie a Alessandro Annese, grazie ai nostri autori, a Filippo Cellini e la Senavarro, al nostro grande Damiano che ha due cognomi che io mi scordo sempre, Fabiani Berti, perché viene da una grande principessa. Non saluto il nostro tecnico del suono perché siamo all'opposto, anche se oggi il calcio non c'è, ma lo saluto con grande abbraccio. Grazie a Gaia, grazie a Radio 24. Voice Anatomy torna domenica prossima.